Successo. Allora, nelle puntate precedenti sì, abbiamo parlato con Ora che appunto se abbiamo riportato in vita e ci ha spiegato un po' di cose in più su, insomma, quello che le è successo, quello che ha visto, eccetera. E discusso un po', Adone ha accennato al voler uccidere Ora in un modo o nell'altro, mi fa deciso di prendere per il culo, però dopo si è parlato ancora un po'. Non sto qua a spiegare tutte le cose che ha scoperto Mif che ci ha detto Ora. Figata. Comunque si conclude con Ora che decide di alzarsi e andare a suicidarsi per i cazzi suoi da qualche parte. Aswan dies. Esatto. Tutti dispiaciuti, però that's the only way. Dopodiché appunto c'è un momento in cui Lieto prova a distruggere il libro che gli ha dato l'uomo che ride e Adone si butta al libro, la palla di fuoco la prende tutta addosso e sviene. Tutti dicono: Devono porco essere Dio, ancora che dati i fortuna. punti esperienza per la kill di Adone. Lo voglio far sapere, però. Lo mettiamo ai voti democraticamente. Quanti di voi vogliono dare punti esperienza ad Adone? A Ah no, me? no, a Lieto. No, sì, Lieto. punti esperienza per aver ucciso Adone a Lieto. Bah, beh, pardon. Io sì. No, Abbiamo un voto sì e quattro voti no. Mi perché se spiace. poi siamo sbilanciati quei livelli. Ma in realtà sono indietro io, quei livelli. Ah, sei indietro, allora va bene, dai. Allora Sì, va dai, bene. sei indietro, I guess. E sono Io indietro perché me le sono fatte le avevo. campagne di Bianchi con i livelli indietro, quindi vaffanculo, te lo Il sistema tieni è i fatto livelli. per essere bilanciato anche con i livelli di differenza. Più o meno. Questa è una menzogna che lui ha Ah, detto. cioè, è sbilanciato anche quello, se preferisci. Gaslighting. Vai. Comunque, riprendiamoci un attimo. Anche lasciano il corpo carbonizzato di Adone e vanno a distruggere il libro. Lieto, Nibel e Mif. Poi Nibel rimane fuori ad assicurarsi che bruci tutto, venga strappato, eccetera. Invece Mif e Lieto vanno a riportare in vita Adone. Adone, mentre boh, ha sogni perché giustamente è svenuto, non si sa cosa è successo. E comunque riapre gli occhi dopo un attimo che si è ripreso. Improvvisamente si alza e tira dritto e inizia a correre fuori dalla chiesa, al che giustamente Mif e Lieto lo inseguono senza tanti senza tanti successi. Lui tira dritto, al che giustamente tornano alla chiesa. Seguendo un attimo Adone va fino all'accademia, passando tra l'altro per i campi, tutto infangato, eccetera. Mi piaceva Un l'immagine attimo, di ci hai messo 3 ore a fare sta cosa. Ok. sì, no, aspetta, no, racconto tutto quello che ha fatto Adone e poi racconto tutto quello che hanno fatto gli altri. Sì. Ok. Adone ci ha messo un botto ad arrivare all'accademia. All'accademia si pulisce, ha un'interazione con uno dei soldati che effettivamente menziona: ah, ma c'è gente dal nord che fa casino. Io non ne so niente. Vero. Al che finalmente va su nella libreria. Firma il permesso e va nella sezione proibita in cui si segna giù alcune cose sui diavoli e trova un libro che parla proprio su della nascita di questo dio meccanico. In tutti questi casini che ha fatto Adone, Nibel, Mif e Lieto, ora scusatemi, integrate voi perché io non mi ricordo cosa avete fatto, se non avete parlato, siete usciti poi dalla chiesa e avete incontrato Maria Reziari in piazza che sta litigando con due guardie. In modo grossolano sì, eravamo diretti al quartiere rosso di Apeira. Esatto, perché Nibel poi ha discusso con Mif di alcune cose, Nibel ha parlato anche col vescovo, ha Col vescovo, ottenuto, esatto, col esatto, vescovo. col vescovo ha ottenuto informazioni in più, c'è una promessa dei capelli rossi, golosa di cazzi, non era così, che Di appunto meno. è nel quartiere a luci rosse, stanno andando là, però si trovano Maria Reziari, in mezzo ai coglioni, as always. E basta, Partiamo da credo di Adone. aver finito. Poi vi spiego perché. Che senso you're not a person according to Discord? È che non stava rivedendo la faccia di Ika. La stava blurrando come se Ah. fosse parte dello sfondo. Sì, è stato molto bello perché stavo tipo. Era così tipo. I'm not a Assigned person. background at Discord. Ok, prego. Nessuno, 2 punti. Ok. la modesta rana pescatrice. Oh, quello è uno dei miei meme preferiti, ti giuro. The Humble Angels. Dicevo, il caro Adone, The Humble Adone, sei ancora nella sezione proibita, se ricordo bene. Volevi controllare dell'altro o te ne vuoi andare? Allora, il libro del dio meccanico comunque l'ho letto. Cioè, c'è altro che devo sapere? No. No. Ok. Mi sono segnato comunque i sigilli dei due diavoli. Sì. C'erano altri libri che mi chiamavano? E l'abbiamo già fatta sta cosa, abbiamo esaurito la lista. Perfetto. Non ci sono altri libri che parlano dell'anima. No, scusami, effettivamente ci sono libri che parlano dell'anima, non intendo nella sezione proibita, ma proprio in generale? O è una credenza proprio vecchia? Allora, libri che parlano dell'anima sono più roba di filosofia e non di magia. Quindi okay. Dipende cosa stai cercando. Qua ci sono robe strane sui riti satanici per fare patti e cose del genere, diciamo. Mm. Arrivo subito, cioè li sento. Mm-hmm. Vabbè, dimmi cosa vuoi fare. No, credo che a questo punto sia Done ha ottenuto le informazioni che voleva e a questo punto esce. Direi che quando stai per uscire, noti, e sto cercando di farlo molto in fretta, che c'è una cosa che all'andata non avevi notato. E la cosa in questione è un pezzetto di carta inchiodato al punto nel muro dove chiaramente hanno fatto le riparazioni. Ok? Sì. Quando hai rientrato, sei abbastanza sicuro che non ci fosse questa cosa? Certo. E guardando meglio, il biglietto ha questa cosa che ti sto per far vedere. La faccia di Sara. Cosa c'è scritto sotto? Le scritte in corsivo con una calligrafia strana, non necessariamente brutta, ma awkward. Cioè, come se questa persona non avesse mai visto niente di scritto in vista sua. Cioè, c'ho un feeling here. C'è scritto: sono fuori per un po'. Se mi stai cercando, mi troverai sui colli. Il sorriso, firmato, l'uomo che ride. Ok, colli uguali, ok. Ecco. A questo punto Adone può staccare il biglietto e portarselo con sé? O no? Descrivimi cosa fa Adone di preciso. È inchiodato al muro il biglietto. Ha paura a togliere il chiodo, quindi se proprio lo vuole strappare via. Lo strappi? Sì. Quindi fai tipo così? Sì. Ok. Quando fai questa cosa, nel momento in cui lo tocchi, hai una sensazione strana. Per una frazione di secondo, Adone vede oltre il muro, vede oltre il cielo, e ha proprio per una frazione di secondo, un istante, l'idea di riuscire a vedere oltre il cosmo, cosa c'è intorno a lui. E non è in grado di descrivere questa cosa e per subito dopo gli sembrerà un'allucinazione, forse è un'allucinazione, come se ci fossero innumerevoli mani e occhi che tutte intorno al cielo stanno per afferrarlo. Dura una frazione di secondo, quando strappi il foglio passa. Adone sbatte un paio di volte gli occhi, guarda il biglietto e se lo mette in tasca. Ok. E a questo punto fa per uscire. Devi scendere numerosi piani di scale. Arrivi al cancello, che si apre, perché hai tutti... cioè prima esci dal sigillo, sì, che ritorna 0 su 1, poi scendi le scale, poi arrivi al cancello. Quando esci dal cancello c'è la signora, che la ragazza che ti ha fatto firmare, e ti dice... sì, ti dice se è andato tutto bene, se ti serve qualcosa. No, perfetto, tutto a posto, grazie mille. Okay, buonasera, buon pomeriggio. Però grazie, e dimmi solo dove ti vuoi dirigere, in base a quello ti dico se continuiamo o se vado agli altri. Ok, ho una domanda di Sirio stupido. I colli, intende le colline ovviamente, ma mi sembra uno spazio un po' grande. A chi lo stai chiedendo? A me stesso, credo. Okay. Adone, dove cazzo sarebbe? Che senso? No, aspetta, allora piano. Nella mappa i colli, devo tenere conto, cioè le colline sono proprio tutte attorno alla città o ci sono tipo solo verso tipo il tempio che abbiamo... Ah, a parte il tempio di Diru che è un colle, cioè è una colletta, okay, e l'acropoli che è un altro colle, cioè la città è costruita su un affare. Le colline sono a est e nord-est, mentre ad ovest, okay, ci sono delle vere e proprie montagne che iniziano abbastanza lontane dalla città, una decina, 15 km dalla città. Ok, quanto distano le colline oggettivamente? Le colline, praticamente, una volta che hai attraversato la città, ci sei. Cioè, iniziano dal momento da dove finisce la città. Ok. Ok, dai, allora... Adone si dirige verso le colline. Ci vediamo con Adone tra un paio di ore. No, scherzo, che strada vuoi fare per arrivare alle colline? C'hai la mappa lì. Allora, scusami se lo disegnano. Cioè, questa è la cosa che ho fatto all'andata in mezzo ai campi, spiaccicato, no? Sì, sì. Ci metto tanto, più che altro. Considerando che c'è il fango e tutto, sono un paio d'ore effettivamente da qui a qui. E poi devo andare... E poi sono alle colline o devo camminare ancora? Devo attraversare il fiume. E poi ci sono. Invece se passassi per la città sarebbe più veloce. La strada è meno schifosa. La strada per la città non è quella che hai disegnato tu, è un pochino più in basso. Ah, sì. È più così e così. Dovrei passare per la piazza principale. Sì, esatto. Sta conta che è costruita in modo che devi sempre passare per la piazza centrale per andare nei posti, altrimenti devi passare nello sterrato. Adone può rubare un ombrello? Non credo ci siano. Cioè, credo che la gente vada di magia. Ah, ok. E io giustamente sono l'unico stronzo che non sa usare la magia. In questo modo, vabbè. Allora niente, sai cosa? Vado comunque per la strada esterna, per lo sterrato, e magari uso il mio bnuo per coprirmi dalla pioggia, sto giro. Esatto. Bello. Hai usato la magia. Vabbè, ma fa culo. Domanda stupida. Posso usare Yu-Yu per crearmi tipo la piattaforma sulle scarpe e camminare così? Tipo trampoli? Yu-Yu ti rallenta. È un'armatura. Realtà, eh. Cosa? L'unica cosa che ti sto per dire è che Yu-Yu ti rallenta. Ah no, porca troia, allora no. Cioè, quindi puoi in teoria, però probabilmente andrebbe in pari perché hai del peso in più. Allora, credo che lo farei per la semplice... Cioè, se ci metto sempre 2 ore, ok. Giusto per non camminare nel fango. Per non smerdarmi come ho fatto l'andata. Sì, sì, esatto, non ti smerdi, quello sì. Ok, ci metto sempre con lo stesso tempo, ma almeno non mi smerdo. Vai, ti do anche l'esperienza e ti tolgo il mare. Ah, hai calastato il famiglio 2 volte, giusto? Sì. Hai speso 6 di mana. Porco Dio, quanto me ne rimane? 6-0 di mana, cominci a spendere la vita. Spendi il primo punto vita. Per castare Yu-Yu? Sì. No, allora non la faccio sta cagata. Perfetto, allora hai ancora 1 di mana. Comunque non è abbastanza, però. Posso castare Every Talk e Overpower, fine. Poi paghi la con la vita, con la fatica, la vita massima. Sì, sì, lo so. Ok, basta. Cioè, tu fai questa strada qua, passando da fuori città, giusto? Sì. Benissimo, andiamo agli altri. Vi ricordate dove siete, no? Non c'ho bisogno di ripeterlo. Sì. Benissimo. Dovete dirmi cosa volete fare. E siamo davanti a... quante erano? Quattro guardie? Quattro guardie della Legio Orbi e Maria. E Maria. E si stavano per gonfiare di botte. Esatto. L'impressione è quella. Beh, buona fortuna. E... secondo me se diamo una mano alle guardie, Maria ce la togliamo, però dal cazzo. Abbiamo motivo di farlo. Lo dici ad alta voce? Lo sto tipo dicendo sottovoce a Mif. Cioè no, è nel senso che Mif possa sentire, è quello. Sì, sta parlando con te proprio. Ok, ok. Mif, vedi che ti fa un bombastic side-eye e fa, io non penso. Non pensi cosa? Io non penso che con la legione e noi riusciamo ad ucciderla. A meno che tu non abbia fatto qualcosa con le tue estranee abilità da... Araldo? Non mi viene in mente. Continua a essere una tazza di cereali dietro. Non ho ancora acquisito niente di nuovo. Quindi, no, il suo potere magico è veramente tanto grande. Sì, però, cioè, non mi sembrava in bollissima prima. Ce la giochiamo la memoria, dai! Scusate. Da un bel po' che non succede. Infatti, infatti. Deve essere un ottimo momento per liberarci di una persona scomoda. Sì, non abbiamo nessun motivo né di aiutare un gruppo di sadici psicopatici né un'assassina, onestamente. E l'unico motivo che abbiamo è che potrebbe ammazzare qualcuno di noi, lei. Qualcuno di noi chi? Adone e Liet. E Adone per primo, perché è l'unico di cui conosce la faccia. Quindi io principalmente per Adone. Per esclusione, esatto. Sei così tanto forte perché non usarla come arma per qualche nostro... Non è bisogno. Esattamente in bolla come persona in questo momento. No, infatti. È cioè, leggermente uscita di testa. Se vuoi andare a parlare ci vai, cioè noi stiamo qua. No? Esatto, ti guardiamo. Tu vai, quando... noi siamo qua che aspettiamo. Quando la persona è senza controllo e vuole attaccare qualsiasi cosa, l'unico modo per indirizzarla è darle un obiettivo. Se riusciamo a capire cosa vuole, possiamo dare un testa di Adone dietro vuole. Perfetto. Ma non è nemmeno interessata a sapere dove sono, è questo il punto, ci ho già provato. Niente, non mi ha ascoltato. Se riusciamo a capire i motivi di questa caccia, allora magari possiamo reindirizzarla verso qualcos'altro. Tipo, che ne so, la Zenith Auster. Oh? Oh. Potrebbe utilizzare, sì. Però... sì, sì, no, effettivamente potrebbe essere utile il... Cecco quanto mana ho, scusate. This is important. Sapete, c'è una certa persona importante, la Zenith Auster, che non sarebbe male se sparisse dalla faccia della terra. Possiamo dire che sta facendo sheltering di Adone, persona. Possiamo provare, so. Il problema rimane sempre che dobbiamo capire perché li sta cacciando. E... ma per te è... lieto? Qual è il motivo, lo sai? Io so no. Che... io non l'ho vista poco. Siamo quelli fuggiti da... da Oclica. E... mi... dalle parole che ha detto mi è parso di capire che aveva a che fare col fatto che... che tiene la causa della sua caduta in disgrazia, tipo? Ho capito bene, non era coerente. Sì, esatto, ha cacciato quegli altri del... del vecchio gruppo di Adone, ha detto che li ha presi tutti. Non so cosa intendesse, se ammazzati oppure semplicemente ostaggi. Io penso ammazzati. Penso. Sono caduta in disgrazia, in che senso? Che Maria, a quanto pare, era... Al capo delle guardie imperiali, Maria, esatto, vero? Tipo, mi fa... L'ho vista con la maschera master dell'esercito. No. Off character. Aveva la maschera, questo lo sai, da Dux. I Dux sono il secondo rank più alto dell'esercito. Ok. No, Miff non poteva sapere che ha scelto la carriera dell'esercito soltanto quando l'ha vista, che l'ha riconosciuta, ha visto che c'ha la maschera alta. Io non so se Miff sia culturata su queste cose qui, però. Sto proprio parlando con Lieto io. E conta che della prima carica ci sono 8 persone. Quindi lei è sotto queste 8 persone e basta. È una persona particolarmente importante all'interno dell'esercito dell'impero. E okay. Aveva perso la carica, prestigio, da quello che ha detto, il lavoro e la sanità mentale, soprattutto quella, ma non ce l'aveva già al tempo. E... sarà che al beef con un personaggio immaginario. Quando mai? Di nuovo, infatti, stai sempre con le donne, Sara. Cioè, approvo, però. No, non è lesbica questa volta, è incredibile. Vabbè, non importa. No, no, ti ho detto. Ma sempre con le lesbiche. Cioè, scusate. Sapete, ci sono dei collegamenti che possiamo fare per reindirizzarlo verso qualcun altro? Non lo so, odio per le centrali, odio per chi le gestisce. Lavorava mezzo per, cioè, odio per le centrali, a meno che non sia successo una cosa adesso, cioè da quando l'abbiamo lasciata e ora non dovrebbe esserci. È successo chiaramente qualcosa, non so se ha a che fare con le centrali. Possiamo andarlo a chiedere, I guess. Fermare tutto in ogni caso e indica la situazione che abbiamo davanti. Non mi sembra un'idea saggia. Già ci siamo fatti notare da Zenith, poi ci faremo notare adesso. Lei è arrivata fino a dove chiaramente eravamo prima e significa che arriverà anche la chiesa, quindi le scelte sono due. O l'ammazziamo o facciamo come dice Nibel, ma ci inventiamo qualcosa, perché io non ho la minima idea di come fare. Se volete addormento tutti, ma chissà se poi resiste o meno. Ho visto ogni problema ha una soluzione sola. Addormentiamo! Ma mi chiedo io, Sigiru, ma non è finito il mana adesso? Ancora un po'. Vabbè, alla fine del mana c'è tutta. 13 di mana ancora. Sono le 10 di sera. In questo momento, uno dei soldati... No. Ah! Sono le 10 di sera. Ah, ok. Uno dei soldati con la picca, quello che la stava affrontando per primo, cerca di colpirla e lei con un rapidissimo movimento fa comparire due lame che si infilzano sul legno della picca e la tagliano. La punta vola in aria e dopo un pochino riscende a terra impiantandosi. Gli animi si sono scaldati tantissimo, lei crea una raggiera di lame e loro si mettono in posizione per combattere. Andiamo a vedere, popcorn. La tazza con i cereali, la tazza di cereali. Perché no? Potrebbe insegnarci qualcosa. Ci sediamo nell'angolino, tipo. Se non volete combattere, non setappo la scena, ve la racconto e basta. Se volete combattere, me lo dite che devo setapparla. No, per ora no. Direi che non siamo intenzionati a combattere. Esatto. Ogni turno di combattimento alla D&D dura 6 secondi. Il primo turno di combattimento consiste nei 4 soldati, uno che, avendo uno stecco in mano, lo getta a terra e tira fuori un'ascia e cerca di colpirla con l'ascia. Lei con altre 2 lame deflette il colpo. Le lame, quando fanno questa cosa, scompaiono. Cioè, prendono il colpo e scoppiano. Senza fare esplosione, fanno il puff delle gemme di Steven Universe. Vabbè. Gli altri 2, con 3 lance, castano delle spell e poi cercano di colpirla. Una riesce ad evitarla con un movimento rapido, tipo piegandosi all'indietro. Su un'altra rifà il giochetto delle lame e la terza la graffia. Finisce proprio di striscio. Turno di Maria. Punta uno dei soldati con una mano, con l'altra fa comparire altre lame e poi gliele lancia addosso. Lo crivella di colpi e il primo cade a terra morto. Morto, cioè non KO. Prende 48 danni, a 40 di vita, va a meno 8 e muore. Bene, grazie per averlo chiesto. Gli altri 3 vanno in berserk come risposta a questa cosa. Quindi si lanciano full attack, cioè reckless attack, e riescono effettivamente a colpirla. 2 su 3, il terzo di nuovo si prende le lame che deflettono il colpo e la sua arma si spacca. Gli altri 2 riescono a ferirla, le fanno una 20 di danni. Tocca di nuovo a lei, prende 2 lame, 2 le infila negli occhi dei tizi vicini e sul terzo fa di nuovo il giochetto di lanciargli tutte le lame che ha creato. Quindi ce ne sono 2 accecati, 2 morti. Quello a terra adesso non è morto, è solo KO. I 2 accecati non sono in grado di combattere e sono solo a terra, mentre lei sta delirando tra sé e sé. Il combattimento è durato 12 secondi. Prego. Il Miss guarda verso lì e fa: davvero tu, secondo te, ce l'avremmo fatta ad ammazzarla? Ma quelle sono delle mezze calzette. Certo. Dimitri che ha proprio fatto questa cosa. Certo. E nessuno di loro è l'avatar di un dio. Basta! È vero, però. Cioè, è letteralmente vero. Si fa tutto. Anche Adone è un avatar di un dio, però non mi sembra che una palla di fuoco. No, no, Adone è un dio molto diverso. Attenzione, okay. Anche per. No, tu mi fai non... è palla diverso. Boni, Adone è un dio potenziale, non è ancora un dio. Una larva di divinità. Okay. Allora è debole alle palle di fuoco come qualsiasi altra persona. Per due, esatto. Vabbè. No, è di tipo metallo. Ghiacciaio. Beh, che dire, la seguiamo, continuiamo per la nostra. Cosa facciamo? Vogliamo provare a parlarci? Pure tu, Lieto. O Mipel, se desiderate. Io starò in silenzio questa volta. Io direi che è l'ora di Mipel di parlarci. Nibel si alza in piedi, si mette la pipa in bocca. Gli dopo la spacca sulla spalla, sono proprio... Fai campione, un champ. Mani in tasca. Mi avvicino verso Maria. La ragazza potrebbe essere tua figlia come età. È ferita, la sua armatura è strappata in 4 punti. E sta sanguinando, non in modo copioso né grave, però chiaramente c'ha dei tagli. E sta parlando da sola, ok? Non ha nessun senso il discorso che sta facendo, sta proprio parlando di robe. Qualcosa tipo: ho fatto un nodo a modo, a modo. Ho fatto un nodo a modo, a modo. Mi avvicino, guardo i 4 disgraziati per terra. E l'ascolto nel frattempo. Se ho fatto bene i conti dovrebbe arrivare tra poco. Avessero detto qualcosa di più su chi sta cercando. Vabbè, La città non è grande. Dove arriva, arriva lo becco. Vedi che sta guardando in aria. Verso il quartiere da dove siete. Dopo il tempio di Delos, verso Kainoe. Hai fatto un po' di pulizia, vedo. Non si gira nemmeno. E continuando a guardare il cielo come se stesse per arrivare qualcosa, dice: no, ho lasciato sporco. Dici? Sì, questa gentaglia non si merita neanche un minimo di sforzo. Ti trovi d'accordo? Il mio nome è Nibel, piacere di conoscerti. Qua si gira, ti guarda, ti mette una mano proprio addosso, sulla spalla, e dice: non conosco nessuno che si chiami così. Io sono Maria. E si rigira a guardare il cielo. Sì, non è un nome comune, è un nome del nord. Me lo diede mio padre. Ma cerchi qualcuno in particolare? Maria? Sì. Sì, sto cercando qualcuno che è un po' in ritardo. È per caso qualcuno che ha a che fare con la Zenith Auster? No, non che mi risulti. Sto cercando due persone. Una persona. Una persona e qualcos'altro. E uno dei due ha fatto incazzare l'altra. Ma in effetti così non ti sto aiutando. Conosci Lumiera? Sei mai stato a Lumiera? No, non sono. Non ho mai viaggiato più di tanto al di fuori di questa città. C'è qualcosa di interessante? Se vuoi parlare, sono qui. Mi sembra tu abbia bisogno di qualcuno che ti ascolti. No, non ho bisogno di nessuno. Beh, almeno nel combattimento sembrerebbe di no. Te lo concedo. Noti che solo ora si è resa conto di essere in mezzo a un campo di battaglia. Si guarda il vestito strappato, si toglie la giacca e la butta per terra, rimanendo in carattiera fondamentalmente. Alcuni tagli hanno penetrato anche questa cosa qua, chiaramente, quindi sono coperti di rosso, cioè la carattiera sarebbe bianca e se è macchiata di rosso. Tiro fuori la mia borraccia, la apro, c'ho due sorsi, vuoi un po'? E ti guarda, ride, tira fuori un sacchetto simile nella struttura e nel modo in cui lo contiene, lo conserva la borraccia, estrae una cosa che posso descrivere come un cristallo azzurro, lo sbriciola tra le dita, lo mette sul pollice. No, già il mio. Sembra che abbiamo qualcosa in comune. Smetto quando altri voglio. Due sorsi. Sì, sì, anch'io. Chiudo la borraccetta, la metto qua. Provi odio per qualcuno? No, no, no, no, no. Sara, guarda WhatsApp. Sicura? Sì, l'odio non fa per me. Peccato. Sto solo eseguendo gli ordini. Ah, quindi è un lavoro per te. Esatto. Pensavo fosse un piacere personale. No, devo fare carriera. Ho una famiglia da mantenere, tu dovresti capirmi. Beh, sì. Anche se adesso non ce l'ho più. Beh, puoi sempre trovarne un'altra. Non ne ho bisogno. Non ho nient'altro da perdere ora. È solo e soltanto odio. È questo che mi porta avanti. Il mio è un senso del dovere molto profondo. Cambio di scena per un attimo, poi ritorniamo subito. Ho bisogno di cambiare la musica. Vediamo un po' che scena stiamo per fare. Stai camminando nel fango con un coniglio in testa, coniglio fuori misura in testa. Aspetto Sara? Non lo so. Ti aspetto? Un minuto, dai, per favore. Io ho mangiato dolcetto, sì, l'ho mangiato. Stavo capottando. Vado a fare pipì. Vai, vai. Buon appetito. Comunque Kiriko la K. Ah. Hai ragione, ha più senso. Di Kiri come De Kiriko. Perché sarebbe Ciri se proprio. Ma vabbè, intanto no, già terminata. Abbiamo perso Ika. Pensava ci mettessi di più e andato in bagno. Puoi mangiarti il tuo Pippo del cazzo. Quando io dico un minuto, non è 0 secondi, 2 minuti, è grazie, un minuto. Sono qua con il moccolone. Porto dell'acqua calda, sì. A freddo. Infatti io non mi riesco ancora a capacitare come sabato io avessi caldo a letto. A letto con... Perché c'ero io. Oh, mamma mia, che... Ti odio. No, è la verità, cioè magari ci facevamo più caldo perché eravamo in due. Ha senso, cioè è vero che quei piumoni sono pesanti, però Gesù Cristo. Tanto. Si è aperto caldo. Di merda. Si è aperto di merda, si è aperto di merda. Si è aperto di merda. Ok. Calma, totalmente calma. Ho tutto bene. Tutto normale. Notte calda in quel di dove cazzo siete voi? In vero. È diverso, credo. Esatto. Beh, a Verona c'è più caldo di solito di Rovigo, sicuramente. È più mite, sì, sì. Ma a parte che Rovigo è infossata, ci credo che ci sia freddo. È umida. È umida. È quello il problema, c'è la nebbia. O d'altro. Scusa? Scusa, non si può dire? Non si può più dire un cazzo, madonna. Da quando c'ha la Meloni al potere. Porco Dio. Se invece fosse stato Di Michele in Veneto al potere, sai come staremo bene adesso. Viva la mafia. Oggi l'ho rivisto, tra l'altro, quel tipo. Figata. Ika è andato in un Turkmenistan a pisciare, porco Dio. Ma secondo me, cioè, il testo l'ha sviluppato, non lo so. Avevo un sacco di prodotto da rilasciare. Vabbè. Esatto. No, The Poseidon Kiss in realtà l'ha inguagliato totalmente. Non sai qual è il pazzo di Poseidone? Quando caghi, ok, sì. La cacca va nell'acqua e poi l'acqua ritorna su. Ok. Quello è il pazzo. Vabbè, ma sai quando... Già che ci sei. Una cosa tira l'altra. Parliamo di qualcos'altro, sì, eccolo. Niente. Che palle. Sto circondando un tavolo. Da uomini. Fare l'albero. Ci vuole il seme. Eccoci, dai. Stiamo nella grind. Ok, vai. Sto camminando in questa situazione. Adoro è sempre in situazioni ridicole. Ti ci cacci tu, per carità, però secondo la cosa più veloce è metterla e poi skipparla. Esatto. Stai camminando nel fango, hai un coniglio sovrappeso sulla testa, fai molta fatica, sei esausto in realtà perché hai fatto molto più di quello che il tuo corpo è abituato a fare. E fino a un secondo fa c'era un diluvio universale in corso. Dico fino a un secondo fa perché da nord vedi una luce. Come se stesse sorgendo il sole, non dissimile da questa cosa. L'unica cosa è che in questi giorni ci hai fatto l'abitudine, l'hai visto come funziona, il sole non sorge da nord, sorge da est, quindi da molto più in là. E le nubi iniziano a diradarsi. Vorrei chiederti cosa vuoi fare. Rimango a guardare, perché il mio primo pensiero è Zan Zan, che cazzo. Cioè, so che Zan Zan ha fatto una cosa simile, ma vedere una cosa di quella portata, Adone sta sull'attenti in questo momento, però vuole vedere che cazzo sta succedendo. Come prima cosa arriva la luce, un flash, un bagliore. La pioggia cessa quasi immediatamente. Le nubi si diradano, riesci a vedere il cielo terso sopra di te. Il bagliore è proprio un puntino luminoso all'orizzonte che si sta avvicinando e man mano diventa una palla, una sfera, qualcosa di molto più grande e poi una specie di meteora. Cosa vuoi fare? Allora, osservazione logica. Anche se stesse puntando contro di me, non ho modo di scappare. Quindi, cioè, però domanda, effettivamente è puntato verso di me? Sta venendo nella tua direzione. Cioè, non sai se è addosso a te, però la direzione è quella. Tiene... Para a morire, perché non ha modo di scampare. Cioè, correre non ha senso. Adone abbraccia il coniglio e capisce che è il suo momento. La meteora si fa molto vicina e a un certo punto capisci che non è enorme, ok? È poco più grande di un paio di metri, 4 metri al massimo di diametro, ok? E è sì coperta di fiamme, ma queste fiamme sono dorate. E tutto intorno, man mano che si avvicina, vedi degli oggetti rotondi che escono fuori da questa meteora. E al centro della meteora non c'è alcun dubbio che sia una donna. Dei capelli o rossi o gialli, i colori sono un po' sfasati. Ed è una donna che sta volando all'interno della meteora, tipo Goku. Adone va per prendere l'impatto, non ha modo di fare niente. Adone ti passa sopra, 10 metri, 5, tra 5 e 10 metri sopra di te, e va oltre. Okay. Verso il centro della città. Cosa vuoi fare? E poi andiamo agli altri. Adone si gira, guarda un attimo la donna, guarda verso i colli. E va verso i colli. Cambio di scena. Il primo ad accorgersene è Lieto. Non perché lo vedi o lo senti o altro, ma perché è come una presenza leggermente dietro di te che ti dice: hai fame? Tu hai? Sì, sì, hai proprio fame. E è come se avessi l'impressione che questa presenza stesse indicando un punto nel cielo. Poco dopo, cioè 4-5 secondi dopo questa cosa, scegli te se dire qualcosa a Miff, agli altri. Sei vicino a Miff e non a Nibele. Cioè, fai la scena poi. Ok. Sorry. 5 secondi dopo è Maria ad alzare il dito nello stesso punto che stava indicando l'altra cosa. E come se stesse parlando con Nibel, ma in realtà sta parlando più tra sé e sé, dice: oh, eccola che arriva. Nibel, non vedi nulla. Miff, se vuoi fare un roll puoi, ma di base non vedi nulla. Religione. Chiaramente. Ok. Allora, vediamo un attimo. Ho fatto un 9 più... Avverti che cazzo una... è la religione, però? Dialettica. Vai, vai. Avverti una vibrazione. Sto pensando se nella tua vita hai mai avuto questa sensazione, che non è la stessa del mostro del lago, ma forse hai avuto una sensazione simile in Nadiria, a Shylat. Ok. In prossimità del pozzo di Shailat. Forse. Fatto sta che senti una presenza difficile da descrivere venire da il punto dove a quanto pare sta guardando Lieto e dopo un secondo che l'hai percepita sta indicando Maria. Penso che i miei occhi siano al cielo a sto punto. Nibel? Cioè io ho idea di dove lei stia guardando in questo momento. Sta indicando un punto proprio e tu in quel punto vedi il cielo nuvoloso. Però mi guardo attorno. Vedo qualcosa di diverso. No. Si guarda in direzione di Lieto e Mif. Vedi che loro stanno guardando il punto dove stava indicando lei. Faccio un sospiro e sbuffo un po' di fumo come se tipo tutti fossero diventati pazzi e riguardo di nuovo la direzione delle nuvole. Lieto, se vuoi farlo, sennò vado avanti. Do tipo un colpetto a Mif. Io dovrei andare là e chiama. Là? Aspetta, no, dov'è che... Aspetta un attimo, dov'è che hai indicato con la... La direzione in cui stavamo tutti guardando. Ok. Visto ti fa... Ok... Ok. E... tipo fa... Mm-hmm. Il mio dio mi dice di andare in quella direzione. Mm-hmm. Ho capito, no, ho capito. Comprendo. Mi sa che quella cosa arriva... La pioggia cessa, il cielo si fa un pochino più chiaro e viene un flash da quella direzione che sorprende più Nibel degli altri a questo punto, immagino. Gli altri comunque, cioè, lo sapevano. Qualcosa si aspettavano. Sì. Sai cos'è che farò, Lieto? Mi sposterò da te, per sicurezza. Mi si alzano. Si sa mai che questa cosa cada... su Lieto e mi fa a fianco. No, we won't take the chance. Mi si avvicina verso Nibel. Dal flash vedete un puntino luminoso, che prima è proprio un puntino, man mano diventa una pallina, una sfera, un globo, e si sta avvicinando a voi, cioè sta proprio venendo nella vostra direzione. Cosa volete fare? Maria, vedete che sta creando una raggiera di lame. Sta venendo proprio, cioè ci atterra nella piazza, può essere. Mi metto nell'angolino, però cioè in una via afferente, cerco di non stare un po' in mezzo alla piazza, però sto lì, cioè mi tira Nivel sulla manica e fa ce ne dovremmo andare. Non sto capendo bene cosa sta succedendo, quindi io... Ok, che ne seguo... andare, Dio. Seguo Mif. La cosa strana è che quando andate leggermente verso destra, verso una stradina, la meteora che stava tirando dritto curva leggermente nella vostra direzione. Questo non so quanto strano vi sembri, ma a Maria sembra molto strano, tant'è che si gira, vi vede immediatamente, e... avendo una foresta di lame dalle sue spalle, dice: ah, ce l'ha con voi? Vuoi dare una mano? Un aiuto magari sarebbe sempre... Il nemico del mio nemico è mio amico. Ottimo. Proprio un buon detto, Maria. Hai qualche idea? Non ha tempo di dirtela, perché il cielo si fa chiaro in pieno giorno, cioè è pieno giorno, quindi si rischiara completamente dalle nubi. Non c'è più una traccia di pioggia, ma c'è una gigantesca meteora all'interno della quale c'è chiaramente una donna, circondata da monete d'oro, che le girano intorno, ed è probabilmente il suo metodo di propulsione in qualche modo, che sta urlando a squarciagola: usurpatore bastardo! Puntando verso, a questo punto ve lo posso dire, Lieto. È Va avanti con la forza del capitalismo. Avete un turno a testa. Un turno vuol dire due azioni e un'azione extra. E se volete parlare, mi prendere la scheda. Se volete parlare, potete dire una frase, non di più, una frase a testa. Pensavo tre parole. Che roba è? Anche oggi sei riuscito a formare l'unica spina. Esatto. Oh, una al giorno se la becca, eh! Cioè, non è possibile! Ma l'ho riconosciuta? Che senso? Vedo. La tipa se tu che l'hai riconosciuta, qua. Dietro l'ha riconosciuta. Ok. Bene. Se ora mi dici il nome sbagliato, vengo a Pisa e ti do una testata, però. Quindi stai attento. Io vengo a Pisa e ti do una testata, porco Dio. Mi vesto, vado a prendere le chiavi della macchina. Eh sì, Promezia, avevo fatto una campagna su cosa, se non è Promezia! Esatto. Muoio. Niente, non avevo il coso pronto di Promezia, peccato. Come no? Promezia! Che arriva così, Diro. Non è Promezia, grazie Sirio per aver menzionato il vero nome. Non c'erano arrivati a quanto pare. Sì, è vero. Ok. No, ma non è vero, c'era arrivato Ika. Sì, c'era arrivato. Stava grazie, Ika. Allora, sarai in ritardo di 8 anni per la laurea, ma capire che che quella lì è Diro. Questo. Oh. Allora, io ho preso le distanze a questa cattiveria che ha detto. Sono menzogne, proprio. Sono due. Ok, scusami, ti voglio bene, riprendiamoci, avete le vostre turni, io sono fanculo. Lieto verrà a uccidere Adone per motivi related. Sì, avete un turno a testa, potete fare quello che volete nell'ordine che volete. Potete anche organizzarvi nella misura in cui non parlate di quello che sta succedendo. Quanto è distante la suddetta meteora? Abbastanza da raggiungermi nella durata di un turno. Diciamo che va a 200 km orari. In 6 secondi quanto sarebbe? Ok. Guarda Nivel. Tipo via giacca, via guanto, moneta in mano e Caton Kairos. Verso il cielo. È a 333,3 metri di distanza, secondo Google. Wow. Scusa Gemini, perché ho cercato su Google e ovviamente mi ha risposto Gemini. Dicevo, moneta in mano, ma la usi o sei solo pronta a usarla? No, la casto, punto il braccio al cielo e la casto. Ti ricordi la formula? Dilla, dai. Non era Hecaton Kairos, come era? No, come cazzo era la formula? Possiamo fare questo momento dove Nibel sta cercando di pronunciarla, arriva Bibba e gli fa Hecaton Kairos. quella roba lì, sì. Scrivimela, sì, perché sì. Non me la ricordo. Scrivila, sa. Scrivimela, che non me la ricordo, come la metto negli appunti almeno. Proprio in casa, te l'ho bevuto, quindi sei fuori. Okay, quindi... Ecco, sì, Biden Blast. Bello. E quindi avete ancora. Lieto può ancora parlare. E poi avete... Vabbè, Nibel, ci avresti un'altra azione se vuoi fare qualcosa, non so se puoi fare qualcosa di utile. Aspetta, mi devo togliere tra l'altro una moneta. Che cosa ho? Cosa posso... Cioè, sì, sono un minatore contro... Ma sì, infatti, cioè, contro qualcuno... Coughing Baby versus Hydrogen Bomb, cioè, che cazzo posso fare? Infatti, bello. Oh, possiamo tenere pronti una spell, un qualcosa. Fare come vuole. Se arriva il turno dopo, cioè... Sì. Lieto qua è ben alto. Ah! La succhiaca! E si interrompe. Bello. Vuoi anche fare qualcosa o hai fatto questo e basta? Evoco le lame. Blade Rain. Ah, proprio così? Ce l'hai ancora? Non avevi cambiato classe? No, ce l'ho ancora. Non ho abbastanza punti per cambiare classe. Ah, ok. Praticamente stai castando la stessa spell di Maria. Sì, a livelli inferiori, probabilmente. Sì, ma non è tanto i livelli quanto la quantità folle di potere magico che c'ha. E per la cronaca, voglio vedere solo quante ne crea. Crei 9 spade. Allora, ti dico una cosa, e qua è una roba di logica totalmente tua, ma con incantator Maglon io evoco delle mani di funghi, no? Sì. Ok, io ho Iron Hands. Tecnicamente parlando contano come mani, cioè sono ipoteticamente delle mani quelle. Allora, sì, ma peggiora. Di base fa un D8. È incata, cioè un D8 per ogni hit delle mani. E un Hands scende a un D6. La precisione bonus posso anche dartela. Il più 1 a danno posso anche dartelo. Vabbè, cioè, nel senso, sono contro la meteora, quindi non credo che sia problemi di precisione. No, infatti. Faccio uno shotgun di mani, quindi no, ok, niente. No, no, adesso fa già un D8, non cambia niente. Vabbè, c'ho i tiri Iron Body per tiri propizi. Però a livello di... non so perché è successo. Sì. Scusa, dicevo, Ika, hai creato 9 spade. Lanciarle è un'azione extra, se non sbaglio. Puoi lanciare una per azione extra. Sì, sì, lanciarne una. Ok. Entro 4 MCL, 6 celle. Puoi già lanciarne una se questo è il tuo desiderio. Perché no? Perché buttare via dei danni? Quindi... E una raggiera di lame e una di queste, timidamente, si dirige verso la meteora. Lei era la lama più coraggiosa di tu. La più coraggiosa del mondo. Altro che One Punch Man. E vorrei sapere, Miff... Cosa può fare Miff? Cioè, non si può preparare nulla. Oh, castano i romanzi sulla... Ad Aria, devo aspettare che entri in range. Lo so, lo so. Esatto, no, no, per ora sta ferma lì, anche perché non conosce le spell forti. Mi devi togliere il mana, Bianchi. Sì. Di certo non si avvicina Lieto, Cioè... Io non so Nibel, cioè io e Nibel dov'è che siamo? Un pochino più distanti da dietro. Ma noi si... cioè io ero vicino a Maria, cioè non mi sono spostato siamo tanto. Siamo spostati un pochino. Sì, vabbè, però c'era a livello di 3 metri, cioè nel senso non è che cambia qualcosa con una meteora di... Ok, ok, ok. Allora, cioè, Miff sta comunque vicino a Maria e Nibel e aspetta perché a sto punto non può fare altro. Maria... se l'era preparata, usa una lama come scalino, ci cammina sopra, la lama gli fa da rimbalzo, arriva a mezz'aria frapponendosi fra la meteora e Lieto, avendo capito che sta arrivando lì, e lei fa una cosa molto simile a Lieto, ma lancia tutte le lame, cioè le mette tutte davanti, cosa che tu non riesci a fare per mancanza di... Okay. Conoscenza, volontà. Sì. Insomma, qualcosa. La meteora si schianta verso di voi, prende tutte le lame addosso, colpisce Maria, quindi la travolge, e arriva verso di voi. A questo punto una singola lama la colpisce, mi rolli i danni della tua lama. La singola lama. Credo di... Eh no, la difficoltà è per loro. Sì. Cioè, non ho visto male, beh. Singola cella sul bersaglio, la vita con difficoltà 5 più M più livello. Quindi 6 allora, più il livello che 1, 7? 15. È stata adoggiata questa cosa. Credo la festa anche comunque. Sì? Ah no, è... Sì, niente, semplicemente si scioglie la rama. E... No, aspetta. C'è meno di 15 di classe, di difficoltà? 5 più 2, 7? Sì, 7 3 10, ok, sì. E le mani Nibelcast ha incantato un Maglon, dal suo braccio protrudono una quantità folle di mani che si dirigono verso la cosa e fanno da cuscinetto attutendo la meteora e impedendole di schiantarsi contro di voi. Mi rolli... Posso ritornare una cosa poi? Dimmi. Ok, volevo farmi una carica di vuoto. Ho controllato con Emotional Burst, okay. Power, che posso farmi una carica di vuoto. Ma gratis, senza fare nulla? No, no, casto la spell. Ah, ok, sure. Va bene, sì sì, spendi così il tuo turno. Nibel mi rolla 9 di 8 danni per aver fatto sta cosa. E rollo i danni di Maria. 29. Ho rotto di merda, tra l'altro. Mamma mia, che schifezza. Veramente. Sai che crea 9 spade anche lei? Metapod contro Metapod, però. Vabbè. Troia le ha lanciate tutte. Aspetta un attimo, devo vedere come funziona. Sì, vabbè. Niente. Tira i danni anche tu. Non te lo faccio tirare per colpire. Quindi un di 8 mi pare sia. Cioè, com'è? Sì. No. Sì, sì, sì. Ma l'ho mancata io? No, no, entra. Ah, ok. E un di 6 danni. Ok. E un di 6. Sì, sì, l'ho scritto, ma ho scritto una lettera male, quindi. 39 sì. E 29. Oddio, non riesco a farlo, perché 18... 68, giusto? La meteora ha preso 68 danni. E sta fresca come una rosa. No, fammi andare alla prossima song. E ora siete così posizionati, non vi metto nella mappa, non c'ho voglia, non è importante. La meteora, dopo essere stata fermata, ha fatto un salto all'indietro e è a 4 metri di distanza da voi. È con un ginocchio per terra e le braccia allargate. Non ha delle ali, però ha una quantità numerosa di monete che le girano intorno, formando una specie di... a metà tra aureola ed effettivamente ali. E... non si capisce quanti anni abbia, sembra che sia stata carbonizzata, quindi il suo volto è difficile da leggere, diciamo. Maria è davanti a tutti, è stata colpita anche dalla fottutissima meteora, ora le tiro i danni. Ha preso 0 danni dalla meteora. Wow! Oh, wow! E volevate ucciderlo? No, no! Sì, sì, ma infatti Miff vi ha detto che era una cattiva idea. Lo 0 danni della meteora, in compenso i suoi vestiti sono quasi carbonizzati. Cioè, aveva una canottiera che è piena di bruciature. E vedete che è esausta. Cioè, fa fatica a respirare. Dietro di lei, subito dietro di lei, c'è Nibel, che ha il braccio... non dico bloccato, ma avvolto da quello che resta delle mani, non sono ancora andate via, quindi hai un groviglio di robe attaccate e devi o staccarle o comunque gestirle in qualche modo prima di poterti muovere liberamente. Dietro Lieto e Mif. Tocca a voi. Ok. Cioè, più che altro sta facendo qualcosa lei? Sta preparandosi per attaccare, chiaramente. Sta preparandosi per attaccare? Per attaccare chi? Esatto. Sta guardando Lieto. Attacca. Fucking hell. Vabbè, Miff cerca di castare Terrify. Punto in più anche di speciale. Sì, dai, ci arrivo. 5 più M più livello, sì, quindi a significa 4 metri di distanza da Maria, quindi a 10 meno di 10 da te, 8 metri da te. 3 per S, 3 per E, ce la faccio. Sì, sì, infatti. No, più che altro, ok, casto Terrify, tanto Nibel non mi vede. Quant'è la difficoltà? 5 più M più livello, quindi 5 più 3, 8 più 3, 11. fatto 24. Oh, oh, oh, mio Dio. Ti guarda, ti fissa negli occhi, noti che i suoi occhi sono fatti d'oro, cioè le sue iridi sono dorate, e dice: credi che ci sia qualcosa che mi spaventi al mondo? Girl, I tried. Tipo, guarda da un'altra parte, cioè veramente non le rispondo. È un'azione base o un'azione extra? Un'azione extra. Base. Questa era Maria o era la tizia che stava attaccando? La tizia che stava attaccando. Ah, ok. Letteralmente mi metto dietro Lidl. Ecco la mia azione extra. Ci sta. Ha scelta tra Lidl e Nibel. Io faccio... Vuoi fare qualcosa? A parte che la di botte no, quindi... Sì, l'intento è il solito, vai. Faccio forza col braccio per cercare di staccarlo dalle radici, dalle escrescenze. Ok, quindi spendi tutto a fare quello. L'idea era di lanciare un altro incantatore Make-Lon in faccia a sta tizia. Oh, ok. In qualche modo non posso tipo fare una sorta di help action, visto che c'è... Il movimento non dovrebbe combaciare con... Puoi aiutarlo a sradicarsi, quello sì. Infatti, oppure a tirargli fuori il manapenny e metterglielo nella mano, cioè... Anche... Sì, puoi. Ok, cioè, Misty aiuta allora, capendo cosa sta... immaginando cosa stai cercando di fare. Ti dà una mano. Sì. Ok. Ripeti la frase. Risuccede la stessa cosa. Tuttavia, noti... Cioè, lo vedete tutti, che il numero di mani che crei è molto inferiore a prima. Cioè, un solo braccio lungo che si avvicina e afferra la tipa, e tipo dei rami di un albero spoglio che cercano di colpirla. Stavolta non mi tiri quanti erano 9, ma me ne tiri 3. Sì. 3 di 8. Oh no, il diminishing return. Posso scrivere 3 di 8. Oh, che sfiga. Qualcuno sta tenendo il conto dei danni che mi avete fatto? Erano 68 prima, più 15 adesso. 60, 83. Quindi fino io. Se vuoi. Tanto. Puoi controllare Dirweb. Porco, pronti? No, scherzo. Scherzo, no, perché, cioè, sennò ti devo spoilerare delle robe. Immaginavo. Fine del turno di Nibel, mi manca il turno di Lieto, credo. E... Fireball. Fai una cosa a quest'uomo. Fireball, vai. E quanti di quattro erano? No, 4 di 4 al bersaglio e la metà quelli intorno. Posso resistere per dimezzare i danni. No, li riduco di 9. Quanto range ha? Ci arriva. No, nel senso, quanto raggio d'azione ha la palla di fuoco? Cioè, non colpisce? Un metro di distanza. Esatto. No, non arriva. Ah, ho capito. 15, non c'è così tanto di difficoltà, vero? La difficoltà... 5 più 4, 9 più 3, 12, era. Subisce un danno da questa cosa. Ok. Sfiga. Oh, e io 84. Sì. Guadagni un punto di esperienza. Perdi 3 di mana. Giusto? Sì. Sì. E vabbè, l'azione bonus c'ho ancora. Sì. Posso tirargli un coltello, certo. Quindi. Parola per colpire qua. Goodbye bot. Lo rimetto adesso. Sei? 8? Mente, sì, no? Evita, lei lo evita, ma quello che vedi è che una delle monetine che le girano intorno viene spesa in qualche modo, gira in aria e la monetina sparisce insieme alla lama. Ho visto un episodio di Kill la Kill, questa meccanica. No, questo è un'altra cosa, poi te lo dico dopo. non voglio gli spoiler prima del dovuto. Rimane solo Maria. Vai io. Ancora una volta. volta la sentite parlare tra sé e sé, avvicina una mano alla testa e dice: Shibira, bersaglio agganciato. Ho già iniziato lo scontro, è riuscita a venire o devo risolverla da sola? Guarda voi, guarda avanti e dice: ho capito. Tira fuori solo due lame e cammina verso la tipa per attaccarla con le due lame. E aspetta che non mi ricordo quanto c'ha di bonus. Ah, 19 e 22, il secondo è pure critico. Entrano entrambi e fa 2 di 8 danni. Fa altri 15 danni. Va a 99. Spot on. Sì. Tocca l'altra tipa. Allora, la prima cosa che fa come azione extra è creare un velo d'oro che la avvolge. Quindi ha tipo uno strato di metallo. Troia. La sua seconda azione è scattare in avanti, trampling tutti voi, cioè tutti quelli che sono tra lei e Lieto. Dovete rollare per evitare, se non evitate subite un di 10 danni. Mi feri davanti a Lieto o no? Ero dietro Nibel. Dietro Odima. Dietro Nibel, eri davanti a Lieto o di lato? No, non era davanti in realtà. Ok, allora solo... No, secondo me eravamo distanti in direzioni diverse. Certo. Solo Maria rolla per evitare. Ho rollato anch'io per evitare. Certo, benissimo. Maria fa 13. La difficoltà base di questa cosa è... 15. Quindi colpisce entrambi, prendete entrambi un di 10 danni. 6. Avevo detto 21 su Maria e 6 fa 27. Danni subiti. Lieto, ti faccio anche a te un di 10 danni. Non credo tu abbia resistenze a danni da impatto. Non credo di no. Ok, prendi 7 danni puliti. Vai a 15 di vita. Yes. E lei ti sta tenendo una mano davanti alla faccia e sta caricando una specie di raggio. Fine del suo turno. Tocca a voi tre nell'ordine che preferite. E cerco di infilzarle la mano con... posso fare due azioni per il lame, no? L'azione normale plus l'azione speciale. Sì, sì. Sì, sì. Ok, quindi posso usare due lame contemporaneamente in un turno. Vai. E sì, cerco di incicciarle la mano. Sei a 5 lame. Mi rolli per colpire con entrambe. Lo so che dovrei rollare io, ma preferisco lo faccia tu per un motivo e poi ti spiego. Un 8 e un 3. Il 3 la missa, la lama proprio cade per terra. L'8 fa la stessa cosa di prima. Una monetina si gira e sia la monetina che la lama spariscono. Hai ancora un'azione base. Puoi muoverti, usare un oggetto, insomma. C'ho ancora la meridiana di Kronos dietro, vero? Sì. No, beh, mi sposto. Ok, ti allontani andando verso di loro o proprio in un'altra direzione? Cerco di avvicinarmi a loro. Ok. Lei ti segue con lo sguardo, mentre la mano sta ancora puntando verso di te. E tocca a voi due, scegliete voi l'ordine. Le braccia del secondo attacco sono ancora lì, sono ritirate, sono seccate. Era un ramo solo, quindi basta che fai così e si stacca. Ok, lo stacco e faccio... Quanto è distante? Poco, meno di 5 metri, quindi ci arrivi. Ok, voglio fare carica berag da dietro, tipo prenderla, abbassarle il braccio e tenerlo fermo. Allora, è un test mio. Devo fare contrapposto, tipo... No, è solo mio su di te. Come difficoltà metto il tuo sollevare. 7. Sì. È resistere, direi di sì. Prendo il più alto, ha fatto 18 a resistere. Vedi che alcune delle monetine che le girano intorno spariscono e ti repelle, come se ci fosse un campo di forza. Ok. Hai ancora un'azione extra, non so se puoi usarla per qualcosa. Posso fare tecnicamente un attacco perché ho Kickmaster. Sì, con quello puoi. Allora gli tiro un calcio. Di 10 per colpire, più la tua precisione. Più 4, sì. Con calma, rotto. 12. Allora, un'altra monetina sparisce e devi tirare di nuovo. Poi fallo e poi ti spiego. Sì, sì, sì. Mi impone svantaggio. Dato un peggio di prima. Dai, cioè, meglio di prima. Uno sì, meglio di prima. Per lei peggio di prima. Ah, sì, sì, sì, certo. Spendere la monetina è come se tentasse di demolire la realtà in qualche modo. Non so a che, fino a che punto riesce a percepire sta cosa a Nibel, per gli altri è un pochino più evidente che sta cercando di fare qualcosa di magico, ma la tua determinazione è tale che ignora questa cosa. Puoi tirare i danni, che non mi ricordo quanto sono. Era un di 6 più... ah, tra l'altro in realtà dovrebbe essere più 5, mi sa. Sì. Non più 4. Sì, sì, quindi sì. Era 14 perché... entra comunque. Perché okay. Prowess, Iron Hands... i tuoi attacchi senza armi guadagnano precisione per il tuo rosso, i tuoi attacchi con armi... no, niente, più 4 allora, ok. Beh. Con armi guadagnano più 1 danni e precisione. Ok, è un D6. Sempre con calma. Non vaffanculo. Le fai un danno. Le fai un danno... è il centesimo danno, però. È il centesimo danno, ma soprattutto le fai un danno perché ci avresti dei bonus... ma lei li riduce, cioè il metallo di cui è fatta lo assorbe. Quanto danno riceve? Cioè, ho dei bonus. No. Sì, dovresti avere dei bonus. Grazie. Ma sto... è un calcio. C'è anche il calcio? Ho il... posso aggiungere più 1 a danni e precisione agli attacchi con armi. Sì, no, no. Con gli attacchi senza armi dovrei avere... fammi vedere arms. Più 1 precisione per punto competenza. Ah sì, vabbè, sì, in realtà avrei più 1 precisione, quindi era più 6, non era più 4. Okay. Sì, sì, però a livello di danni è solo un D6 senza niente. Ok. E fine del tuo turno, mi sembra. Sì, per come ho cercato di afferrarla, sono dietro di lei in questo momento. Ok. Mi ha respinto, quindi, però sì, ero dietro di lei. Ho ritirato un calcio. Tocca a Miffa. Ok, ho una domanda da farti. Io ho ancora la carica di vuoto. Qua, su Pentagon Spread, c'è scritto intro S celle. Ma io posso... hanno tutti i nemici intro S celle. È un problema se la faccio sono esplodere adesso. Ah, sono i nemici. È vero, hai ragione. Dipende allora... se consideri Maria un nemico oppure no. No, no, no, no, no. Assolutamente. E niente, provo a far esplodere la carica di vuoto. Ok. C'hai la descrizione di come funziona sta roba? No, era come aveva funzionato il mostro. Cioè, quindi è... sono danni sacri. Cosa? È emotional power. Emotional power. Sì, sì, sì, sì. Gli fai... è un... c'è il pentagono aperto, mi fido di te, cioè dimmi te quanto li fai. Sì, sì. Allora, qua c'è scritto un di 6 danni e applica nuovamente questo effetto alla fine di tanti tuoi turni, quante le tue cariche di vuoto che possiedi. Ne possiedo una, esatto, per un turno è un di 6. Per evitare quanto ciò? Cioè, posso evitarlo? Non... è... no, non c'è scritto. Ok, allora è garantito. Ci sta, sì. Può essere. E tira i danni? Ho fatto 2. Le fai un danno. Ovviamente le faccio un danno. Uno. Finisci il turno, quindi le fai un altro di danno, a meno che non vuoi fare dell'altro. Sì, anche perché non ha senso nei romanzi adesso. Ok, rollo un D6. Rollo un altro D6. Quanto costa questa cosa? Allora, solo quando la triggeri, 2, poi non so alla fine, non c'è scritto. Sei a 0 di mana, a meno che non hai... Cioè, c'hai ancora i libri e c'hai ancora la fatica. 11, perché? Perché non c'è scritto? Hai usato 2 volte, non so se l'hai segnata tutte le volte che ho usato nei romanzi oggi? Sì, che l'ho consumata con i grimori. Ok, allora sei a 0 di grimori e sei a full di mana, cioè sei a 9 di mana. Giusto? No. Ok. Ti segno anche l'esperienza 4, o fai 4, adesso? 2, 1, non lo faccio io. Perfetto. E le fai un danno di nuovo, quindi 102. Tocca a Maria se non vuoi fare altro, ma mi sembra che non puoi fare. No, altro. No, infatti no, vai. Maria crea un'altra raggiera di lame. E vi guarda e fa tipo un tss fra sé e sé, come se foste di impedimento. E ha 16 lame, non so se mi interessa, ma a me interessa ovviamente. Attacca 1d6 volte. Attacca 4 volte, ogni attacco devo rollare un d10 per colpire. 2 missano, 1 consuma la moneta per farla ritirare. 8, ok, uno entra proprio pulito e uno entra ridotto. Subisce 3 danni. Mi va a 105. Sì. E tenta Maria di mettersi, di frapporsi fra Lieto e Diru ancora una volta, alzando più lame possibili per schermarti. Tocca a Diru, che lancia un raggio d'oro. Datemi un secondo. Datemi solo un secondo che non sto trovando. Ok, è un laser, quindi tutti voi dentro al laser dovete rollare per evitare, non resistere. Verso Lieto il laser. Il laser prende Lieto e Maria. A meno che non siate in mezzo, ma non credo. No, no. Okay. Era dietro. Io rollo per Maria. La difficoltà è 12. Se lo prende, se fate meno di 12, prendete il danno full. Se fate più di 12, prendete il danno dimezzato. Sarebbe, tra l'altro... Aggiungi agilità. Agilità. Vai a 7, così lo prendi full. Sì. E... non so se hai qualcosa per ritirare. Posso, sì, c'ho prowess, posso ritirarlo. Però fare 12 next, cioè, sta niente a ritirare probabilmente, però. No, è peggio di prima. Allora. Non prendo niente danno, sì. Sì. Allora, non è tanto i 2 di 8 che stai per prendere, o i 2 di 8 che sta per prendere Maria. Ehi. Maria prende 15. Ehi, sono vivo! Maria prende 15, li riduce a 13, quindi prende 13 e va a 40 danni subiti. Tu prendi 10, non li riduci di nulla, sono danni sacri. Vanno a 5, vado. No, okay. 6, scusa. Oh, no. 10, io qua sono segnato 5... 15, sì, no, ho letto quello sopra. Sì, okay, sì, ho letto 16 sopra da lontano. Ok. Ma la cosa strana, brutta, è che parti del tuo corpo iniziano a diventare d'oro. Ah. Oh merda. Sia del tuo che quello di Maria, che non ha evitato. Questa era un'azione che avevo caricato al turno prima, quindi vuol dire che ne ho delle altre. Solo un secondo, c'ha 4000 spell sta cosa. E noi no. Già. E noi no, esatto. Per no 3D. Casta offerta potente. Distrugge quasi tutte le monete che hai intorno. Questa è perché è scesa sotto i 100 di vita. Distrugge quasi tutte le monete che hai intorno e crea un'aura che la potenzia. Cioè, vedete che inizia a muoversi più velocemente. Sì, esatto. Entrate in fase 2. Sì, inizia a muoversi più velocemente. picchia più forte e probabilmente ha smesso di usare le spell. Tanto per darvi un esempio, davanti a lei c'è Maria e le tira un pugno, solo che il suo braccio ora è tipo largo così ed è fatto d'oro massiccio. Divertente sto numero, vero? 44. Oh ma what the fuck? Oh mio Dio! In che senso più 40? 22 danni. Maria li riduce di 3, quindi ne prende 19, va a 59. E Saga se ne va. Non sto aprendo al gatto. Miau. Miau, sono io, sono entrato. Non ti ho visto fuori. Fammi spazio, Sara, grazie. Si muove. Bene, in modo spazio tutto. Fulmineo, ecco. Tira una gomitata a Nibel che è dietro. 23 di colpisce. E anche la gomitata fa danno. Fammi controllare. No, non mi colpisce. 11 danni. La gomitata! Sono danni da impatto, quindi li puoi ridurre con le resistenze a impatto che dovresti avere. Non ho nessuna resistenza io. Ah, neanche da Iron Body? Ah, una volta no, per incontro puoi ridurre un danno da impatto del tuo livello totale. Allora lo faccio. Cazzo, lo dici 3, subisci 8 danni. Io ci ho segnato che avevi 33 di vita, vai a 25, sì. Sei corretto. Ok. Sei... ok, fai tu. Okay. E si muove a muso duro verso Lieto. E a questa distanza da te. Tocca a voi 3 e poi a Maria. L'evasione non aumentava tipo di 1? Come che funzionava? O ogni diminuiva? Volta che ti missa Ah ok, aumenta di 1. No, diminuisce di 1. Sì. Sì, sì, ok, ok. Vabbè, allora non è niente per ora. E Lieto fa quello che ha fatto meglio fino ad oggi. Se la daga. La tattica della famiglia Joestar. Madonna. Porco Dio. Lui aveva fatto, era nel team di atletica e gli aveva imparato a fare una cosa in 100 metri che l'hai vista muoversi molto velocemente nella tua direzione. Io altrettanto velocemente cerco di non credo velocemente, ma non altrettanto velocemente. Se vuoi puoi. E vabbè, sicuramente faccio lo sprint. Faccio, sì, spendi tutto il turno per farlo. È un'azione extra, cioè. Lo sprint è due azioni base e un'azione extra. Puoi spendere un'azione extra? Ah, ok, ok, ok, sì, sì. E c'è anche più una di evasione fino al prossimo turno, bello. Vai, quello, e il più lontano possibile. Sì, usi tutto per andartene. Sei tipo a 12-13 metri di distanza. E fine del suo turno, vorrei sapere Mif e Nibel in qualunque ordine cosa fanno. Quindi Diru si sta allontanando? No, Lieto se ne sta allontanando e Diru lo sta seguendo. Però ancora non si è mossa Diru. No. No, no, si stava. Ha fatto tipo un balzo per avvicinarsi e lui è corso via. Una scheggia. Sì. Ok, quindi quanto è distante al momento Diru più o meno? E 4-5 metri di distanza da te. Ma anche meno, 3 di metri di distanza. Ok, e da Maria invece? E ce l'ha a fianco. Ce l'ha di lato Maria e davanti c'era Lieto che ora si è mosso. Ma provare a gambizzarla? No, si muove con le monete. A quante monete ha ancora attorno? La gambizziamo. Le ha distrutte tutte per creare questa aura di speed up, power up, eccetera. Ok, che è quella che gli dà tipo i più 20 più 40 di... sì. Flat. Non so se mi conviene provare ad afferrarla di nuovo. Perché tipo se il tiro salvezza per lei solo 7. Infatti. Cazzo, non credo no, a sto punto no, gambizzarla proprio, cioè prenderla e spaccarle le gambe. Allora vado con quanto dite che ha di difesa? È fatta di oro. L'oro non è un metallo così tanto resistente tecnicamente, quindi è tutti, puoi piegare. Però è un conduttore tecnicamente, quindi magari qualcosa di elettricità sì, sarebbe potuto essere comodo. Beh, se è tipo se è tipo cambiata effettivamente anche per a livello alchemico, visto che generalmente le cose alchemiche sono deboli all'elettricità. Se solo ci fosse qualcuno che utilizza l'elettricità nel nostro party. Se solo ci fosse qualcuno che utilizza l'elettricità nel nostro party. Corro, mi muovo verso Diru e... Perché non so quanta difesa ha. Vabbè, Right. Provo lo stesso, provo a fare un attacco col piccone. Okay. Invece che con i pugni, vediamo quant'è. Piccone che ho più... Io quanto ho maestria arma? 2, quindi è un... questi sono solo danni. Mi sa il piccone sì, aumenta solo i danni, non aumenta la precisione. Sì. È un D6 più 1, scusa, di 10 più 1, se non ricordo male. Sì. C'ha 11 di evasione per ora. Ah, ok, quindi devo fare proprio 10. Che farò ora? Esatto, farai proprio adesso. Perfetto. Oh, no! Però l'evasione le scende a 10. Non ho dei reroll, no, perché ho obolo della verità e... Puoi spendere un mana penny per usarlo. Ma obolo della verità è una prova... Ah no, aspetta, io c'ho prowess. So vai. Sì. Faccio prowess. Cioè, che cazzo me ne frega, ma che vado io abbasso la vai, sì, l'evasione. L'evasione okay, è peggio. Due volte per incontro, posso usare, non penso sullo stesso attacco, sì. Faccio il mio calcione. Ah sì, questo è un altro attacco, vai. Un di 10 più 6. Affaculo. Vabbè, wow. Uso prowess. Sì, di nuovo. Devi fare almeno 2 per colpirla. Sì, sì. Lo farò ora. Ecco. Mamma mia. Attilizzo. Roll. Un di 6. Farò un 1 di nuovo adesso sto giro. Non ho danni aggiuntivi, no, per... E porco. Fai un danno, la protezione d'oro che hai inizia a craccarsi, non mi viene il termine italiano. Sì. Creparsi. Sì. Sì. Tipo gara quando lui tira un calcio veramente molto forte. Uguale ha fatto. Tocca a Miff, mi pare. Penso che spenda un mana penny, perché penso che ci pensi che l'oro potrebbe essere... Boh, che cazzo ne so, spende un mana penny, fa passione tormentata e lo fa di tuono. Di tuono. Giusto, rolla tutte le tue cagate. Devi rollare qualcosa o devo rollare io? È un bersaglio dentro, resiste con difficoltà 3 più 2 per M più livello. Quindi 2 per 3, 6. Più 3, più 3. 12. Wow. 26, wow. 25. Wow, non mi ricordo cosa faccia. Se missa, recuperi la moneta. Sì, quelli che fa... No, porco. Ho sbagliato cosa. Se fallisce, subisce... Ah, ok. Ma non ho fatica. Mana. Ok, ottimo. 10. Hai visto? Servita qualcosa. Oh. Tristezza. La tua sensazione in prima persona è che tu hai cercato di fare un braccio di ferro magico a qualcuno incredibilmente più forte di te. Era un'azione base? Sì, hai ancora un'azione sì, base e un'azione extra. Domanda, qualcuno ha una pistola? Un... Sparagli! Esatto! La pistola! Cazzo, che spendo semplicemente un'azione, un'azione extra, quello che vuoi per urlargli questa cosa, ok? C'ho sia la pistola che il fulmine, tra l'altro. Wombo combo! Vuoi rewindare il tuo turno? No. Bene. Sono no. E no, no, quindi cioè, dice questo e basta, cioè vuole la pistola alla fine. Non ha senso che faccia Terrify, non ha senso che faccia un Aerobanzi, quindi... Need a fucking weapon, I guess. Se riesci a venire a prendere è tutta tua la pistola. E... Ma lanciagliela! Yes! E... Sta lei, mi sa, a sto punto. Sta Maria. Sta Maria. Maria dice a Nibel: devi tenerla ferma per un solo secondo e poi ci penso io. Crea un'altra raggiera di spade e invece di fare qualcosa si mette fra, di nuovo si frappone tra Lieto e Diru e lascia due spade indietro a proteggere Lieto e finisce il suo turno senza attaccare. Diru fa la meteora, cioè salta in aria, viene avvolta dalle fiamme e passa through, break through Maria e Lieto. Di nuovo siete solo voi due in mezzo, dovete evitare. Questo è 12. Io ero dietro di lei, non so se sono in range. No, tipo... ti ignora, tira dritto verso di loro. È sempre un 6 che non basta mai. Perché è più 0, io tiro, faccio 3, quindi manca di un ciao. Me lo prendo nei denti, qualunque cosa ne avevo. E sta più 5. Anche lei lo prende nei denti. Sono 2 di 8 danni. Lei prende 9 e va... Io prendo 9. 67. Aspetta, devo rollare io per i danni per te. Tu prendi 4, sei stato fortunatissimo. Sono io! Quanto ti manca? 1! Oh mio Dio. Ma lo sanno tutti che uno è quello che ti serve per vincere. Allora, una delle lame si spacca e riduce di 2 il danno che hai appena subito. E sono a 3 allora. Sì. E lei ti tira un pugno. Vabbè. Tre is not enough. Grey usa la sacra arte delle mani. 14 entra, immagino. Sì. Ti fa 7 danni, questo ti manderebbe KO, ma una delle lame... Si rompe, di mezzo i danni e quindi vado comunque KO. Non li dimezza, li riduce di 2 e quindi vai KO a meno... Ottimo momento per far partire O Fortuna. Sì, sì. Esatto. Vai a meno 3, che vuol dire che sei vivissimo. Sì. Non è ancora un problema mio. La scena un filo epica è che lei fa la meteora, si spacca le lame di Maria e poi ti tira un pugno, un Shoryuken, che ti lancia in aria e poi ti fa cadere a terra pochi metri più in là. Ha fatto la mossa di Vegeta quando fa il Final Flash e poi entra dentro il Final Flash e colpisce. Si gira verso di voi e alza un braccio, il sinistro, più sensato, lo stringe e vedete che le parti d'oro che erano si erano infiltrate nel corpo di Lieto vengono assorbite dal suo braccio e si rimetallizza, le crepe si rigenerano e ci sono dei chunk di carne che gli mancano a Lieto, quindi sta sanguinando copiosamente a terra perché l'oro era la sua pelle che è stata tolta, eccetera eccetera. Bene. Oh porco Dio, non è stato The Glove davvero? Cioè? Non è che ha tolto, non ha scortificato Lieto, vero? Sì, gli mancano dei pezzi di carne dal corpo. Ma gli si vede l'osso? Gli si vede tutto quello che c'ha dentro, gli organi interni. Cioè, erano profondi 4-5 centimetri, cioè gli mancano proprio dei pezzi di carne. Nami. È già KO, quindi non se ne accorge, non soffre. Vabbè, cosa vuoi che sia in questa economia di... Medikit, robe varie. Un male sono 16, posso morire 16 volte se qualcuno mi porta. Credo macchina. Che sia morto di dolore, basta Lieto, perché Dio porco. L'ha fatto dopo che sono stato KO, quindi... Cioè, no, esatto, è svenuto, quindi... Sono in anestesia totale. Avete tutti una brutta sensazione, nel caso non vi fosse palese. Cioè. Maria mi ha dato un suggerimento, se non un ordine. Sì. Di tenerla ferma. Sì. In qualunque modo. Io so se posso usare incantato un Maclon per, cioè le mani per utilizzarle per afferrare, non soltanto per far danni. Puoi provarci, non l'hai mai fatto, non lo sai, non sai se qualcuno ti ha raccontato se si può fare. Non ho molta scelta, Avevi idea. però non ho molta scelta, però ho 17 manapenni, quindi Ho i soldi. Lo faccio dopo. Se vuoi fare altre azioni, dimmelo, altrimenti vado, sento cosa fa Miff e poi ti descrivo cosa Ah, succede. scusa, sì. Cosa Sì, sì. posso fare? Pregare. Pregare, prega, Maria ti ha cioè lei. detto qualunque cosa possa tenerla ferma. Un balletto, un insulto. Oh mio Dio. Non ne ho la minima idea, non ho niente per distrarla, non ho niente per. Genuinamente non c'è niente. Ha senso elettrificarla per darle una scossa per farla tipo, come dire, frizzare un po'. Ok, Maria usa la sua azione extra per dirti: falla dormire. Mi fa così e fa. Prega il Dio che non faccia dormire anche te. Casta nei romanzi. Maria non dorme da settimane. Casta nei romanzi Devono e urlare loro ha. per esistere, no? Esatto. Quindi parte prima 2 Nibel. per M, quindi hai 6 più 3 più 6. Quanto? 6 più 6, 18, 12 più 3. 15. Sì, 15. Ok. Devo fare 15 per. Sì, però la tua spell parte prima, quindi tu effettivamente crei una singola mano questa volta, lunghissima, che lì si avvolge intorno come un serpente ed effettivamente le hinders i movimenti. Rollo per resistere alla roba di Mif. Devo rollare anch'io, giusto? Fallisce, sì. Rollo anch'io. Ho fatto 8. C'hai i bonus? No, Dialettica, cioè tipo 0 o ho 1. 0, sì, dialettico. Sì, è l'unica cosa che ce l'ho propizio il tiro. Sì, Potrei ok. fare obolo della vanità, No, però non ne vale la pena, onestamente. Nibel tende avanti il suo braccio malato. E con le sue ultime forze consuma l'ultimo Manapenny che esplodendo crea un unico braccio che l'avvolge e poi cade a terra addormentato. Lo tolgo io. Maria sembra unfazed da questa cosa. L'effetto della droga le impedisce di addormentarsi, nel caso te lo stessi chiedendo. Bene, abbiamo visto che drogarsi farà bene per stare in parte con me. Ottimo. Andiamo avanti. E invece Diru si assopisce. Dicendo, ma come cazzo è possibile che una ragazzina Tunk? Io mi fa sì, cazzo! Maria si gira verso di te rapidamente e mentre sta creando delle lame ti dice: quanto dura questa cosa? Quanto voglio? Non si può svegliare usando la forza di volontà o stronzate simili? Ok. Sì. Però io le posso fare un incubi se vuoi. Così si fa del male, nel mentre. Penso, spero. Ok, io cerco un punto debole, tu colpiscila con quella cosa lì. Vedi che le sta girando intorno, cercando un punto dove l'armatura sia meno resistente. State ignorando Lieto per il momento. Stavo ignorando lì, sì. Passano 18 secondi, durante i quali lei ha creato il massimo di lame, che sono E allora 50. posso colpirla 3 volte tecnicamente con i romanzi. Ok, Sì. Vuoi tirare i danni direttamente? quindi. Aspetta, aspetta, Ti do che devo l'esperienza solo per capire. un cast comunque. Ok, 2 di 6 sacri, 2 di 6 oscurità. 6 di 6 e 6 di 6. E 6 di 6? sono 3 hit. No? Giusto. I primi 3 sono di sacro, gli Sì. ultimi 3 sono di oscurità. Ne fai 18 danni. Va a 124. E Maria, vedendo la divinità a terra e vedendo che non ha modo di evitare le sue cose, le scarica sulla schiena, in un punto particolarmente debole, tutta la moltitudine di lame che aveva creato. All'inizio sei amazed dalla potenza magica di Maria, e poi la cosa si fa inquietante, perché ti accorgi che Maria sta scegliendo specificatamente di non colpire le parti vitali, di evitare tutti i punti che la ucciderebbero, come se effettivamente potesse morire. Anzi, sta creando un vero e proprio telaio, se forse un reticolo, di lame, che costringono Diru a rimanere con le braccia aperte, il capo chino, appesa in aria, con alcune lame che protrudono verso l'alto. Quando ha finito di lanciare tutte le lame, siete sicuri che è fuori combattimento? Credo che in realtà, se non avesse fatto la cosa chirurgica di non colpire i punti vitali, sarebbe morta, perché ha preso 100 danni in più della vita massima. E Maria batte la spalla di Diru, si avvicina a te e dice: grazie di avermi dato una mano. Perché, prego, sei in debito. Perché non ammazzarla? Non so, c'è un grande pericolo, vero? Miff ti sorride e fa: decido io quanto sapere e quanto dire di ciò che so. Come mai non la vuoi ammazzare? A differenza tua, io devo seguire degli ordini. Sotto contratto? No. È il mio mestiere. Posso sempre ammazzarla io adesso. Sarebbe divertente vederti provare. A breve arriveranno a recuperarla, comunque. Chi? Indovina. Beh, Miff guarda verso Lieto e poi guarda Nivel e fa: hai bisogno che rimanga addormentata oppure posso? Se anche si svegliasse ora non sarebbe un problema per nessuno. È innocua. Miff è leggermente schifata dai suoi toni di voce. Cioè, in qualche modo fa svegliare Nibel e va verso Lieto. Cioè, sei vagamente disgustato dal fatto che gli mancano dei pezzi di carne e degli organi interni. E tipo Miff lo guarda, poi si gira di nuovo e fa: Lieto, abbiamo un grosso problema. È KO. Sì, Lieto. Nibel, okay. Esatto. Nibel, abbiamo un grosso problema. Mi stacco il braccio, tipo, e mi alzo in piedi. Prendo la giacca là per terra. Leviamoci dalle palle. Io in realtà vorrei vedere chi è che arriva. Magari non un medikit a un metro. Esatto, sappiamo che c'è. La chiesa più vicina, se non ricordo male, è la chiesa di Dio, che è one block away. Okay. Però nella direzione opposta, quella dove... No, vabbè, è di strada rispetto a dove volevate andare. Metto la giacca sopra Lieto e lo faccio Princess Carrie. Volevo che ero io. Inizia a piovigginare, bruscolare, come si diceva la nostra. Basta! È morta la fonte di luce. È andata. Arcobaleni. Sì. Cosa volete fare, quindi? Siete in due a scegliere. Maria vi sta guardando mezza sorridente. Se vuoi rimanere qua a guardare, fai pure. La maschera addosso? E credo che non l'abbiano mai colpita in faccia, quindi sì. Ah, ok. Myth ti annuisce e fa: sì, porta in salvo Lieto. Io tento di raccattare qualche informazione in più. Però mi dirigo verso la chiesa più vicina. Ok, prendiamo un attimo Adone, che l'abbiamo lasciato da parte. Ah. Ciao. cambiare playlist, che questa non c'entra un cazzo. Tutti voi che avete partecipato al combattimento prenderete roba in seguito al combattimento. E Adone invece sta per prendere il cazzo, quindi direi che andate. C'era anche anche l'exp per gli attacchi effettuati. Sì, prendete maestria sugli attacchi. Sì, di quello non ho sentito. No, perché c'è questa canzone. Io se non ricordo male dovrei aver fatto... Mi fido di voi. Intanto vado su Adone. I reroll non contano, giusto? No. Cioè, conta come un attacco solo. Sì, ma contano gli attacchi effettuati in generale o quelli che sono andati a segno? Ogni azione di attacco. Quindi se tu in un turno attacchi due volte, prendi un punto. A prescindere che hit o missi. Se tu reagisci io... quattro volte in un turno, è comunque un punto solo. Io non ho... né scritta da nessuna parte né la, cioè l'exp per l'abilità di incantato Maglon, non so, cioè, se no è giusto così, ok, è tutta roba, non puoi prendere maestria per quell'abilità lì nello specifico, extra, sì. Ok, è una roba strana. Ok, mi pare di aver fatto tre attacchi, uno con la mazza e due senza armi. Vado ad Adone. Io ci sono. L'ho bloccato, ma non mi ricordo. Cioè, non mi ricordo il tasto resume. Sì, ok. Siamo indietro nel tempo rispetto a loro, eh? Sì, sì, lo so. Stai camminando ora nel fango, ma il tempo è sereno. E vedi la meteora atterrare nel centro dell'acropoli. Tu hai deciso di proseguire oltre, verso i colli. Non conosci bene la città? Mai un'idea di come fare ad arrivarci. Essendo cessata la pioggia, cammini più facilmente. Cammini per diversi minuti, finché dopo in realtà 10 minuti, 15 minuti, anche meno, la luce, il cielo sereno, si disperde e anzi viene avvolto dalla nebbia, dalle nuvole e ricomincia a piovigginare. Quando questo succede sei... a metà strada rispetto a dove devi andare. Vuoi proseguire? Sì. Perfetto. Quindi da qui in poi è nel futuro rispetto a loro. Ok. Continui a camminare sotto la pioggia, che prima è una pioggerellina e poi diventa pioggia battente. E arrivi al guado del fiume. Per andare ai colli dovresti attraversare il fiume. Non c'è un riesco ponte. Perché il ponte, non c'è un ponte. Il ponte ti porta sempre al di qua. Cioè, ok. A parte che c'hai la mappa su Roll20. C'è la mappa, infatti, lo sto dicendo. Il ponte, quello lì, questo ponte qua, ti porta di qua. Ah, io poi devo andare di lì. Ah, porco due. Puoi fare il giro, ma l'allunghi. L'allunghi tantissimo. No. Ok. Posso, senza ricazzare l'incantesimo, posso allungare le radici dell'armatura che ho sui piedi di Yu-Yu? No. Bello, così è nato. Sì. Trampoli. Sì, trampoli. Sì, sì, crei delle... In maniera molto awkward ti fai forza lungo il fiume che, essendo in piena, ti spinge molto avanti. Infatti, dicevo, comunque difficilissimo perché... Esatto. Il fiume durante la pioggia, figurati. E Adone allora a questo punto con i suoi trampoli cerca di guardare il fiume e insomma arrivarci dall'altra parte. Vai, rolla un di 10 per resistere. Ah, scusami. No, vengo trascinato via. Sopportare, scusami. Faccio uno, lo so che tanto zero. Faccio uno. Quello che succede non è che subisci danno o fallisci, ma fai una fatica tremenda e subisci 4 di fatica. Oh. Vabbè, non hai fatto uno però. Esatto. Ma fatica è mana massima che stai spendendo. Sei dall'altro lato del fiume. Hai con te il coniglio. Ok. Non hai mai visto questa zona. Ti descrivo quello che vedi davanti a te. Sì, grazie. Subito davanti al bivio dei fiumi c'è uno spiazzo senza niente. Subito dopo ci sono degli alberi, un boschetto, diciamo, e questa cosa vedi che sale, cioè vedi che va in alto verso appunto quella che sembra una collina, e poiché sei abbastanza vicino agli alberi non riesci a vedere fino a che punto salgono, però vedi proprio in cima il cocuzzolo, uno spiazzo senza alberi. Adone non vuole fare così tanta fatica, però Adone a questo punto sospira e va, inizia a incamminarsi dentro il bosco. Quando è circondato dagli alberi, a quel punto è una cosa che dico farà un po' nel tempo, dice, inizia a chiamare l'uomo che ride. Come lo chiami? Adone dice: sono qua. Cioè, non lo urlo, scusate, perché tardi. Ma dice: sono qua, ho ricevuto il tuo messaggio, eccomi. E si vede che continua su. Per favore, ti chiedo, non farmi aspettare almeno sotto la pioggia. Adone ha sofferto di allucinazioni e robe del genere nella sua vita, almeno in un due momenti. Sì. Per cui hai una certa familiarità con le cose che non sono vere. Cioè, okay, riesci a percepire quando quello che vedi è una cosa reale e quando è un'allucinazione. E questa non sembra una cosa reale. Vedi una figura nera che sta andando verso il cocuzzolo. Dura una frazione di secondo. Adone sospira, perché è stanco comunque, e l'idea di dover camminare tutto quel tempo gli provoca una certa fatica. Però dice: d'accordo, ho capito. E a questo punto inizia a incamminarsi verso il cucuzzolo. Senti delle risate dal bosco, e anche qua non sei sicuro che siano reali o allucinazioni. E senti una voce che dice qualcosa tipo: però così mi sta togliendo tutto il lavoro. Vabbè, ti sembra che duri un'eternità la passeggiata sul monte. Realisticamente è durato poco più di mezz'ora, un'oretta, in base a quanto, se ti fai, se fai delle pause per riprendere fiato oppure se la road doggy. Quando arrivi in cima, nello spiazzo, c'è una persona, una donna, e questa donna è al centro dello spiazzo, e lungo lo spiazzo ci sono dei tentacoli strappati, come se qualcosa avesse amputato i tentacoli a una piovra nera, e sono tutti sparsi intorno a lei. E ora? È girata di spalle, ma ha dei vestiti che sembrano quelli di Ora, i capelli biondi e lunghi come lei. Adone guarda un attimo i tentacoli, avendo forse una vaga idea di cosa sia successo, ma comunque si avvicina alla donna. E nel caso le mette una mano sulla spalla e la gira. Quando si gira, noti che Ora, ed è Ora, ha qualcosa di diverso. Cioè, il corpo è il suo, la faccia è la sua, è tutto lei. Però ha un sorriso smagliante sul volto. E girandosi verso di te dice: ci credi quanto è stata stupida? Ha seguito le istruzioni alla lettera, facendo poi alla fine quello che stava cercando di evitare. Adone sospira e dice: non mi sento di prendere in giro una persona che comunque ha cercato di aiutarmi. Non sono felice della fine che ha fatto. Credi che qualcuno stia cercando di aiutarti? Sospira e dice: tu cosa staresti facendo esattamente? Sta cercando, dubito di combattere... che tu mi stia aiutando. Sta cercando di combattere la noia. Non avevo mai capito perché loro prendono il corpo delle persone. Mi sembra una cosa così stupida, così temporanea. Però devo ammettere che è divertente. Sono sicuro che riusciremo a fare cose fantastiche. Riusciremo? Sì. Esiste un noi? Certo. Adone si alza un attimo. Si alza un attimo in piedi e guarda Ora. E dice: Allora, amico, hai dei suggerimenti su come fare questa cosa? Intanto si guarda attorno come... La parte divertente è Ora ti porge un libro che non era nella sua mano un secondo fa. Perfetto. È che qualunque cosa tu voglia è scritta in un libro. Adone guarda il libro... Guarda il libro che dice... Ti fermo. Stai guardando il libro e non sei in grado di dire di che colore sia. Non hai mai visto quel colore, non credevi potesse esistere quel colore. No. A questo punto Adone fa... Posso farti una domanda? Puoi chiedermi tutto quello che vuoi. Qualsiasi cosa io faccia in questo momento, tu continuerai a seguirmi? Non credo di essere così speciale. Finalmente una risposta che mi piace. E a questo punto Adone prende un libro, prende il libro in mano. E con questo regalo ci salutiamo. Ora inizia a camminare nella direzione da cui sei venuto. E la fermo. La fermo per la mano, la prendo per il polso. Si gira, ti guarda negli occhi prima che tu possa dire qualcosa. E hai una sensazione di pericolo imminente, nonostante stia sorridendo. E dice: è davvero una brutta sensazione questa. Adone la molla allora. Scando proprio così le braccia. Fa un passo indietro e lascia andare l'uomo che ride. Ora inizia a scendere, fa qualche passo, poi si gira e dice: e salutami tantissimo Lieto, digli che i libri non bruciano, e ricomincia a camminare. Adone sospira e guarda un attimo il libro e decide subito di aprirlo. Finisce la tua sessione qua. Potremmo fare intersessione cioè prima della prossima sessione per sta cosa. Va bene. Finisce la tua campagna qua. Sì, hai vinto perché Adone va fuori di testa e quindi era lì che doveva andare. Adone. Ok. Va. Chi volete fare prima? Nibele Lieto o Mif e Maria? Decidete voi, ragazzi. La fai Mif e Maria. Vai. Okay. Non penso che ci sia chissà che roba interessante di andare in chiesa. Quindi, ti pagano bene per questo? Direi di sì. Cos'è che ti danno? Soldi, fama, onore, importanza. Eppure non è abbastanza? E si ferma a guardare Diru, no? Ma si può sempre fare di più. È vero, si può sempre sapere di più. Ultimamente sta cercando di tenere la testa occupata con altre cose. Sì, tipo il mana polverizzato. Interessante, dov'è che lo prendi? Ho degli amici. Sarebbe carino conoscerli. Non sono amici interessanti. Tu lo sai di più? Lei si butta per terra, all'indietro, si siede proprio per terra nel fango. Credevo di sì. E poi un bel giorno ho raccontato la mia storia a qualcuno e quel qualcuno mi ha trattato come una merda. E quindi no, non credo di essere interessante. Mi falta soltanto un sopracciglio e fa... Beh, se non sei sotto contratto, allora potresti anche dirmi qualcosa, che ne dici? Tanto dobbiamo aspettare. Vi fa sorridere, no? Quindi, quelli li utilizzate dentro le centrali. Com'è che funziona? Sai come funziona? Cos'è che sai? So che li devo prendere, non li devo uccidere, li devo consegnare al Magister. Che succede se li uccidi? Che bisogna andare a cercarne un altro. Questi stronzi uguale? Si incarnano. Quanto tempo si reincarnano? Variabile. Alcuni ci mettono decenni, alcuni ci mettono 5 minuti. È successo anche a Oclic? No. Completamente diversa la cosa. Sul serio? Sì. Cosa è successo ad Oclic? Non lo so. So solo che qualunque cosa ci fosse lì dentro l'hanno rimpiazzata 3 volte. E non abbiamo idea di dove siano finite le prime 2 cose con cui hanno rimpiazzato l'originale. Brutto, sapere che in giro per il mondo c'è una creatura secolare, se non millenaria, in grado di distruggere il mondo e noi non abbiamo idea di che cosa sia, di come sia fatta, come riconoscerla, come fermarla. Beh, di certo non facendo incazzare queste altre qui, sai. Ah, queste sono prevedibili. Sì, però potrebbero essere alleati. Non credo proprio. Perché no? C'è una cosa che li accomuna tutti. Sono estremamente superbi. Ognuno di loro è convinto di essere più forte di tutti gli altri. E finiscono crocifissi. Mif si siede, no? Tanto lei fa lo stesso del fango. Ci don't care. Vedi che si tiene la testa come se avesse una crisi di emicrania. Sono gli effetti d'astinenza? Sta calando l'effetto. Buonanotte. Hai bisogno di un sonnifero? Non credo. Penso proprio di riuscire a fare un'altra. Peccato. Quindi tu ti aspettavi di fare questo lavoro? Di essere inserita così? Era questo il tuo obiettivo? Volevo portare i soldi a casa per evitare a mio padre di fare un lavoro di merda per tutta la vita. E ci sei riuscita? Beh, è andato in pensione, quindi direi di sì. Era un lavoro di merda, lo stai facendo tu adesso. In realtà mi diverte. E rischiare così tanto? È la parte più divertente. Ah, sai che non sono mai morta? Non ti credo. Ti guarda dritta negli occhi e dice: tutti i miei commilitoni sono morti almeno una volta. Qualche volta li ho uccisi io, ma io mai. E mi hanno mandato in gulag al fronte a cacciare le bestie. E io sono tornata a casa. Loro no. Tu dici che sia fortuna o qualcosa di più? Ogni tanto sento una voce. Che voce? Non so descriverla. Sembra vagamente quella di mia madre, ma non è proprio quella. È strano. Come se ci fosse qualcuno a proteggermi. Qualcuno che ti consiglia, magari? No. Qualcuno che mi guida. Forse per quello sono diventata un Dux. NDR Dux vuol dire guidare. I know. Mi sorride, ma... Mi è capitato un paio di volte di sentirla quella voce, ma non penso che sia dello stesso cippo. Ti avevo sottovalutato. Rimaniamo in buoni contatti. Io avevo l'idea che tu fossi una stronza e la stai solidificando. Bissa di papà. Mi sorride, fa: sono felice di dare le giuste prime impressioni. Vedi che alza leggermente la testa. Sì, Sì, l'ho già ammazzata. È catturata. Quello che cazzo vuoi? Dai, non rompere i coglioni, Shibira. Sì, sono nella piazza. Sì, mandali. Chi è la tua amica? Tanto non lo conosci. La veggente dell'esercito. Quanto è un veggente di norma? Non ho capito. E quanto potere ha un veggente di norma? Dipende. Una del suo Quando grado? Quando sono entrata c'era... oddio, non mi ricordo come si chiamava. Vabbè, era lo zio del veggente della centrale, che poi l'ha sostituito. Rodvold, cugino di Naya. Non mi ricordo. Fatto sta che... sì, gente strana. Mi dice Maria, un fantasma di un uomo che urla, sono io. Esatto. Ma anche io sto urlando, però è Sara, cioè mi sono un cazzo, però è Sara. E fa... persone strane che potrebbero far vedere dall'alto qualsiasi tipo di città, no, se lo vogliono. Non credo funzioni così, le genti raramente vedono. Mostrano? Percepiscono, in genere è più a vibes. Interessante la loro magia. Quindi la porteranno a Lumiera? Arriva il Magister e ci penserà lui. Non so dove la porteranno. Beh, la sua centrale era là, no? Sì, ma chiaramente non erano in grado di contenerla. Chissà come mai è fuggita. Già. È un peccato. Questa musica. Vai. Vado avanti. Non so se cronologicamente ha senso. Ok, retcon una cosa sola per Adone. A un certo punto, mentre camminavi su per la montagna, hai sentito un feeling familiare, come una persona che conosci molto bene lanciare una magia che hai già sentito lanciare, provenire dal centro città. Però così mi cambio un po' quello che avrebbe fatto Adone. Eri convinto, eri folle e sei andato dritto. E no! Lo facciamo che lo senti al ritorno? Anche se non torna cronologicamente? Almeno dimmi se si è girato cosa ha visto. Niente. No, davvero, cioè... lo so... Comunque non ho modo di arrivarci, è andato su. Però si è girato a guardare indietro spesso, quindi se vede qualcosa... Sì. Non vedrai mai niente, ti rigirai, non sentirai molte voci. Va bene. Ti posso spostare, perché non voglio che senti quello che sta per succedere. No, ti prego, non farmi questo, Piatech, ti prego. Sì, fallo. No. Sì, fallo. Mi sento benissimo. Non farmi Secondo questo, me Piatech. È meglio se non lo senti a livello di narrativa. Come vuoi te. Vuoi restare, resta, però. Va fuori mutato. Di qui! Ok. Miff vede comparire all'improvviso, a pochi metri di distanza da lei, dalla divinità crocefissa e da Maria, due persone. La prima di queste persone è un vecchio, un signore molto anziano, lunga barba, si tiene col bastone perché è molto vecchio. Molto vecchio, dell'ordine novantenne, ok? Tipo il vescovo di Vama, circa della sua età. E si muove non agilissimamente, ha un abito verde e giallo, con tante decorazioni a forma di piume, simboli geometrici, eccetera. E appena si teletrasporta, perché ha fatto un teletrasporto, inizia a tossire copiosamente, anzi emottisi, sputa sangue. A fianco a lui c'è una persona che è l'esatto contrario, è una donna bellissima dal fisico, quantomeno misure perfette, indossa una maschera di un animale. Devo cercare un attimo l'animale perché non me lo ricordo. Ok, sono contento di aver aspettato perché questa canzone ci sta. Deve essere tipo un tapiro o una volpe, perché c'ha un affare allungato. E come la maschera di Maria, è solo per la parte alta del volto, quindi la bocca è scoperta. La sua maschera non è nera, ma è colorata. Ha elementi viola e blu, cioè quadretti viola e blu che formano una roba intorno. E si vede che è customizzata, cioè è fatta proprio per il suo volto, mentre quella di Maria diciamo che è one size fits all. Ha i capelli mediamente lunghi, più lunghi di Maria. Il suo vestito è perfettamente pulito. È tipo una divisa dell'impero di altissimo rango, con delle decorazioni viola e blu che si ripetono, circolari, circoletti, cerchietti tutto ovunque. Da così, dal vibe, dovrebbe essere 40-50enne, però ha un bel portamento se si riporta bene. È lei a parlare. E ringrazia il vecchio e dice: grazie Azmo, un ottimo lavoro anche stavolta. Quindi Maria, già fatto tutto? Me l'hai già impacchettata? Sì, Magister. E la ragazza sarebbe? Piacere, di Standout, e porge una mano. Sei per terra, lei in piedi con le braccia sui fianchi. Sì, sì, cioè si alza, insomma, conosce le buone maniere, le porge una mano. Lei rimane con le braccia sui fianchi in posizione vagamente fascista e ti accorgi che è molto più alta di te, tipo 30 cm più alta di te. Quanto è alta Mifra? 1,50 m? Sì, è 1,80 m sta donna, molto alta. Forse ha i tacchi, però è più di un... cioè 1,80 m salto. Ho aiutato con l'impacchettamento. Perfetto, quindi ora ti dobbiamo cancellare la memoria. Cosa? Maria ti risponde. Procedura standard. Tutte le persone che hanno visto qualcosa, cancellate. Tu me lo potevi dire prima questo. È vero. Secondo te perché nessuno crede negli dei, nonostante le mille prove? Beh, certo, ci deve essere un lavaggio del cervello. Si può evitare questa cosa molto cortesemente? Intenzione di firmare un contratto? Di che genere? Che ti impedisce di divulgare le informazioni segrete. Cioè che fate la caccia a persone particolari? Esatto. Questo lo si sapeva già, I guess. Se proverai a dire qualcosa di quello che hai visto oggi... Dammi un attimo. No. Non può castare un eromanzio un'altra volta, la uccidono. Vuoi provarci? Ammazzano, scherzi. A Maria è sceso l'effetto, quindi è vulnerabile. Oh mio Dio. Quanto cancellerebbe? Sì. Teletrasportano. Tutto quello che Maria Arziari. Ci deve essere un'altra preda. Infatti, cioè, no, non posso essere un altro punto. Cancellerebbe anche i ricordi di Gelos, di Cronos. Insomma, farebbero un bel pastrocchio nella tua mente. Oh, cazzo, no. Ah! Testo nero, ma sì. Don't fucking care. Allora, Maria resiste con più 8. Ho miscliccato. Uno sul dado, Maria ci saluta. Ah, ok. La tipa resiste. Cos'era, 15? 13. Si addormenta anche la Magister. Ok. Il vecchio rimane sveglio, unfazed dalla tua magia, e ti dice: fuggi bambina, finché ne è ancora la possibilità. Grazie. E ti adagione di non cercare più Silas. Miff non questiona, corre. Cioè, scrivi ad Eddie che si può mutare, a Sirio che si può mutare. Bello che ognuno gli ha scritto su una piattaforma diversa. Bene così. Esatto. Da qualche parte lo vedrà. E invece non lo vede da nessuna parte, perché questo è Sirio nel suo profondo. Madonna. The very blind guy. Saluta la chiamata. Ok, no. Ok, abbiamo... poi puoi smutarti. Sei d'accordo, okay. Sara, che non doveva vederla sta cosa? Ok, grazie. La Sara! Sara! Cosa? A prescindere! Che c***o domanda è? Immagino che tu, alla fine di questa scena, vada verso Lieto e Nibel. Sì. Perfetto. Allora, facciamo Lieto e Nibel e poi chiudiamo la serata, che manca 3 minuti e mezzanotte. Stai trasportando... Lieto in braccio, pesa meno di prima, perché gli mancano dei wonder why, certo, gli mancano dei chunk, quindi è molto facile da solo. Arrivi alle porte della chiesa, la chiesa di Dio, questa, la santa chiesa. Quando entri, se entri subito, dimmi te cosa vuoi fare. Sì, no, entro subito. Perfetto. Guardo attorno se c'è un una macchina per i medikit. Ok, sì, c'è, è in un posto abbastanza standard all'entrata, ma ti colpisce che all'interno della chiesa sia pieno di fedeli in preghiera, o forse per ripararsi dalla pioggia. Il vescovo della Santa Chiesa sta facendo messa, e a fianco al vescovo c'è un soldato della Legio Orbi, cioè quei quattro che Maria ha massacrato prima. Sì. Che ti guardano, visto che c'è un tizio trasportato, quindi si interrompono un attimino dalla messa. Se tu ignori e vai la cosa, non ti dicono niente. Sì, io li guardo un attimo, poi mi giro, guardo, vado direttamente verso il medikit. Ok, finalmente ti scende l'adrenalina mentre le parti di Lieto vengono rigenerate, e ti accorgi che i funghi si sono estesi molto di più sul tuo corpo, arrivando ben oltre l'altra spalla, e okay. Fai fatica a respirare, nel senso senti come se da questo lato l'aria facesse fatica a traspirare. Per il resto sei come al solito. Un po' di fiatone lo metto giù, attivo la macchina, devo usare un manapenny. Sì, anche tu sei stato colpito da Diru nello sterno, quindi hai 2 o 3 costole rotte. Ok, quanti manapenny servono per curare me dietro? No, ma è questa qua in realtà è la macchina pubblica, quindi non devi spendere nulla. Ok, hai solo allora... bisogno di aspettare tipo 20 minuti che faccia tutto il procedimento. Sì, che più lo metto giù, mi siedo lì a fianco e riprendo un po' fiato. Più o meno la durata della messa, quindi ti godi questa messa che racconta le gesta di Dio, di quando era ancora un mortale, tutte le sue peripezie per portare la pace nel mondo e di come l'hanno ammazzato. Non so se l'avevi mai vista una messa del genere, nel caso è un'esperienza. Assolutamente no. Ok, quindi stai assolutamente... Cioè magari le so per cultura generale, però sì. Non sono mai messa. Ok, ci sta. Quindi boh, qualche dettaglio in più che magari ti perdi. E poi Lieto si sveglia. Yeah! E... poi man mano ti si recupera, man mano che resti lì. E Lieto si vede. È la prima volta che moriva, quindi per lui era tipo un'esperienza nuova. Sei questa. Non sono morto. È la prima volta che si trova in queste condizioni, okay, sì, sì. A un medikit. Quindi è tipo, che cazzo. E giro intorno, vabbè, vedo che c'è Nibel, che sono in chiesa, immagino. Abbiamo vinto, cosa è successo? Sì, abbiamo vinto. Diciamo che la signorina è stata impalata numerose volte. Ah, devo andare a ringraziare Maria, allora. E esce di corsa, tipo. Ti prendo la spalla, tipo, ti rimetto giù. Speedy Gonzales. Non sei in grado di camminare al momento. Cioè, proprio, ci sta provando, sta tipo... giù. Stai giù, ragazzo, recupera le forze. Ci sarà tempo per... No, non capisci, devi riportarmi nella piazza. Non credo che tu abbia capito la gravità della situazione. No, sono curato, se quella è a posto possiamo tornare sicuramente. Lieto. Aiutami, dai, inizia tipo... zampettare. Lo pinno giù. La gente, sentendoti che comunque non parli a bassa voce, cominciano a girarsi a cercare di capire cosa stai facendo. Dai, andiamo presto, prima di fare una scenata. Ti spiego tutto una volta arrivato. Andiamo, presto. E si muove, tipo... il pesce fuori d'acqua. E non c'è tipo... Sospiro, prendo la mia giacca, la sbatto per togliere un pochino l'umido e... indosso. Non se succede qualcosa la responsabilità è tua. Certo, come sempre. Andiamo presto. E lo seguo. Quando uscite dalla porta sbattete contro Miff. Miff che vi fa: dobbiamo andarcene. Dobbiamo andarcene, non fate domande, dobbiamo andarcene. Ah, la vedete che... Oh, ok. Volevi dire qualcosa? No. Va bene così. Vai. Sul cliffhanger, cioè, sennò...